Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Carissimi amici ascoltatori, è con grande orgoglio, soddisfazione e piacere che ci ritroviamo qui e do il via, sto per presentare e per reintrodurre Archeologia Videoludica 2.0. Player One, get ready! Runtime Radio presenta Archeologia Videoludica. Ce l'avevate chiesto in tanti, ne abbiamo parlato molto durante gli ultimi anni, ve l'avevamo anche promesso ed è giusto insomma che questa trasmissione, che era stata tanto amata nonostante tutti i suoi difetti e le sue imperfezioni, alla fine abbiamo deciso di riproporla anche con maggiore attenzione, maggiore precisione magari rispetto a quello che abbiamo fatto nella sua prima edizione, perché eravamo sicuramente più acerbi, eravamo anche molto meno maturi anche nella concezione di una trasmissione. Poi dopo 7 anni insomma di esperienza siamo migliorati tanto. Però prima di introdurvi un po' il discorso, introdurvi anche le persone che faranno parte di questo nuovo progetto, vi ricordo comunque che Archeologia Videoludica ha la sua pagina Facebook dove potete seguire la pubblicazione di questi nuovi episodi. Chi era abbonato al vecchio feed di iTunes lo ritroverà sempre attivo, e quindi da adesso in poi tutte le nuove puntate, dopo essere state trasmesse su Runtime Radio, chiaramente saranno inserite nel feed RSS e appariranno in automatico, così come era quando eravate tutti felici usufruitori insomma del nostro programma. Non abbiamo più il sito e non credo insomma che ne gestiremo uno, perché vogliamo cercare di essere un po' più smart nel nostro modo di gestire e pubblicare anche questa nuova trasmissione. E ringraziamo intanto per gli assets audio e la sigla che avete sentito, che veramente mi emoziona semplicemente a sentirla, gli assets audio appunto che sono a cura di Carlo Burigana. Ringraziamo anche Alex Raccuglia per gli assets e i layout grafici e adesso vi introduco chi è con me in questa puntata a introdurre praticamente questa prima parte di Archeologia Videoludica. Abbiamo l'uomo che si è impegnato a portare rigore all'interno del nostro progetto, sia Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, grazie, è un onore finalmente iniziare questa nuova generazione di Archeologia Videoludica 2.0. Diciamo una cosa subito, che Carlo è stato secondo me l'elemento l'ago della bilancia, cioè nel senso che tante volte ne abbiamo parlato, tante volte molti ascoltatori ce l'hanno chiesto, ma è il momento in cui Carlo mi ha contattato dicendo: ma la vogliamo rifare Archeologia Videoludica? A quel punto io mi sono arreso, ho detto va bene, se me lo chiedi tu lo facciamo. E nel nostro nuovo team, di Archeologia Videoludica 2.0 c'è anche Giuseppe Saso. Buon salve a tutti. Comunque in realtà io già facevo parte anche del vecchio, solo che ero entrato, se ti ricordi, nella fase finale. Sì. Insomma, diciamo. E ci tengo anche a precisare due cose. Prima di tutto, che in realtà non è vero tutto questo che stai dicendo sulle richieste, eccetera. In realtà è che tu, Simone, hai sempre quel ripensamento, quella cosa, che quel tarlo che ti divora dentro, che ogni volta che chiudi un podcast non lo puoi lasciare. Ho fatto male, sì, può essere. E poi la seconda cosa invece riguarda Carlo, che oserei dire anche che siccome appunto mi pare Carlo la prima volta ho avuto il piacere di incontrarlo, se non sbaglio fu alla Games Week quando eravamo tutti assieme, sì. Devo dire che è l'unico uomo che è in grado di tenere testa, perché della stessa altezza ha quello spilungone di 2 metri che è Nolan Bushnell, se ricordiamo. Sì, beh, diciamo che Nolan è più alto di me, eh? Io sono 1,82, credo che lui sia 1,90, quindi vabbè, per pochi centimetri però, cioè, io mi sentivo un nano. Però diciamo che è una bella sfida, sì. A birra e salsicce. Chissà che succede. Comunque ringraziamo anche gli altri membri del team, quindi abbiamo detto Carlo Sant'Agostino che farà un po' da storico all'interno di questo progetto, a Alex Raccuglia che ci aiuterà nelle specifiche tecniche, nelle varie situazioni dove poi dovremo approfondire anche alcuni aspetti, appunto Giuseppe Saso e Gianluca Santilio che faranno un po' la ricerca, l'analisi dei videogames, dei quali ovviamente parleremo all'interno di questo progetto, Cristiano Caliendo che ci aiuterà a fare un attimo un quadro storico all'interno del periodo magari che andremo a affrontare nelle relative puntate, e l'immancabile Marco Gualdi il distruggitore con il suo Kit Google Rebirth che ritorna, insomma, perché non poteva esserci archeologia videoludica senza questo elemento e senza questo personaggio. Ringraziamo già da subito, lo dico perché come ha sentito che nell'aria c'era qualcosa che aveva a che fare con archeologia videoludica 2.0, si è materializzato anche Andrea Milana che grazie al Dio ci accompagnerà con i suoi remix storici dei videogiochi, insomma, del passato. Ora, detto questo, io direi, dato che questa è la prima puntata, la puntata preliminare dove insieme a Carlo e Giuseppe racconteremo della preistoria del videogioco, poi Carlo ci spiegherà bene, ci introdurrà bene nel tipo di discorso, non abbiamo in questa puntata l'uovo del tempo, appunto, quindi la parte, insomma, dedicata a Cristiano Caliendo, perché è un po' difficile inquadrare, insomma, una connotazione storica, perché stiamo parlando di un periodo molto vasto, e direi di entrare proprio direttamente nel focus dell'episodio. Dunque Carlo, allora lo diciamo, tu nel tuo trailer sei stato specifico, no? Sì. sei stato chiaro, abbastanza chiaro. Adesso non diciamo più cazzate, insomma, questa è la cosa più importante, o perlomeno proviamo, perché poi sai. No, vabbè, ma allora il divertimento ci sta, no? Lo scherzo e tutto quanto, però se parliamo di storia bisogna essere un pochino precisi, più che altro nei fatti, negli avvenimenti e soprattutto nella successione temporale degli avvenimenti, perché certo. Ne abbiamo anche parlato prima un pochino durante la pre-diretta, no? Quando discutevamo degli argomenti del podcast, il fatto che noi viviamo spesso la storia del videogioco anche con nostalgia e quindi all'interno dei nostri ricordi crea poi spesso quello che trovo molto, molto spesso nella storia quando discuto di storia del videogioco è che la storia viene giudicata con gli occhi del poi, no? Cioè non viene contestualizzata in quello che è il periodo corretto storico, anche perché gli avvenimenti sono stati talmente tanti in così poco tempo alla fine che è molto difficile capire esattamente cosa è successo bene, chi ha fatto cosa, come e perché sono successe determinate cose. Spesso si danno motivazioni a determinati avvenimenti che non sono corretti semplicemente perché non ci si ricorda esattamente cosa è successo in quegli anni nella sequenza temporale corretta. Detto questo, posso intervenire su sta cosa, così sì. anche l'opinione di Giuseppe. Secondo me, al di là delle persone, ecco, come Carlo, che poi hanno fatto magari oltre ad aver vissuto alcune parti di questa grande ma allo stesso tempo condensata storia del videogioco, molti di noi che non hanno fatto magari una ricerca, che non hanno approfondito o roba del genere, si basano più sul proprio ricordo personale, e il ricordo spesso e volentieri confonde, no? Perché anch'io a volte, come diciamo anche nella prima edizione di Archeologia Videoludica, mi sembrava che alcune cose ci fossero state prima di altre, invece poi in realtà mi rendevo conto che l'errore era clamoroso, insomma, quindi l'approfondimento e la ricerca sta proprio in questo, perché cioè alcune cose vanno giustamente contestualizzate, no? Questo è un po' quello che vuoi dire. Sì, esattamente, la contestualizzazione è fondamentale, soprattutto quando abbiamo tanti avvenimenti in poco tempo, è assolutamente fondamentale. Detto questo, non so se vogliamo fare una piccolissima premessa, visto che è la prima puntata, questa prima puntata l'abbiamo intitolata la preistoria del videogioco. Perché preistoria? Esatto. Perché preistoria? Perché qui faremo una, ovviamente in questa puntata cercheremo di fare una sventagliata, non potremo approfondire nel dettaglio tutto. Poi dopo invitiamo anche gli ascoltatori, se hanno domande specifiche su alcuni argomenti che trattiamo oggi, che vogliono vedere approfondite, mandateci pure le domande, i canali li ricorderai tu, però presumo su Runtime Radio, giusto? Sul sito? Sì, sì. Su Spreaker? Sì, più che altro su Spreaker, dove troverete chiaramente archeologia videoludica, ma anche la nostra pagina Facebook, oppure anche tramite le nostre poste elettroniche, insomma, oramai conoscete a memoria, perché tanto l'abbiamo dette centinaia di volte e le ridiremo anche a fine puntata. Ecco, poi sul sito Mai Dire Mai, che insomma magari troviamo qualche giovane miracoloso che gli va, esatto. Esattamente, e ci rimettiamo in piedi anche il sito internet. Per quanto riguarda quindi questa prima puntata è la preistoria, perché io vorrei raccontare brevemente cosa succede, cioè qual è il percorso propedeutico che porterà poi alla nascita del mercato del videogioco. Il mercato del videogioco ufficialmente nasce all'inizio degli anni 70, se vogliamo, con il famosissimo Pong, no? Che è il primo videogioco che si diffonde commercialmente a livello mondiale. Però prima di questo c'è stato tanto altro, cioè c'è stato un percorso per arrivare sino a quel momento, e il videogioco, come tante altre invenzioni moderne, non ha un vero e proprio padre. Spesso si dice: ah, il videogioco l'ha inventato Tizio, l'ha inventato Caio. In realtà il videogioco non l'ha inventato né Tizio né Caio, è una di quelle invenzioni, come il computer, come l'informatica, come altre invenzioni, se vogliamo, famose e moderne, che nascono nel momento in cui dovevano, che era il momento in cui dovevano nascere, cioè la tecnologia, il coso, il contorno, l'humus che c'era intorno ha creato le basi per far nascere il concetto del videogioco. Quindi non esiste un padre putativo vero al videogioco, ne ha tanti, e in questa puntata cercheremo magari di trovare i vari punti. Dimmi Simone, stavi dicendo qualcosa? Dicendo che questo è un punto sul quale ci siamo ritrovati tantissime volte anche in archeologia informatica, no? Dove chi è stato il primo, no? È la fase storica nella quale l'umanità è giunta a quella conclusione, sta per arrivare a quella conclusione nei vari punti del mondo dove poi questo si sviluppava. Giuseppe, volevi dire qualcosa anche tu? Sì, io volevo, diciamo, fare una specie di pseudo parallelismo, però apro e chiudo questa parentesi molto velocemente dicendo che proprio come noi stiamo trattando appunto oggi la preistoria del videogioco, anche di per sé il gioco, quindi l'attività ludica, il ludens, no? È una caratteristica che in realtà c'è stata nell'uomo sin dagli albori, proprio in quel caso dalla preistoria, cioè che gli uomini primitivi, eccetera, giocavano, no? Poi nell'antica Grecia, ovviamente Aristotele ne aveva anche indicato, proprio l'aveva messo allo stesso al pari delle virtù, quindi insomma comunque proprio come nella storia umana, nel nostro specifico appunto il gioco c'è sempre stato, anche prima di quelli, diciamo, dei casi più eclatanti che poi torneremo anche a parlare, penso, nelle puntate future. Certo, assolutamente d'accordo Giuseppe, non solo rilancio perché nel caso specifico proprio una delle domande che dobbiamo porci per fare la storia del videogioco è soprattutto innanzitutto definire il concetto di videogioco, che non è facile, è complicatissimo se vogliamo definire il concetto di videogioco, perché vediamo già solo se lo chiedo a voi due, che non siete i primi che passano, mi sembra, sulla storia del videogioco, non so se voi avete già subito così la definizione. Se io vi chiedo cos'è esattamente un videogioco, voi riuscite già a darmi la definizione corretta di videogioco? Oddio. Ah, guarda, ce ne sono, adesso poi passo anche a Giuseppe, ci sono delle definizioni, diciamo, quasi da enciclopedia, no? Perché comunque il videogioco si basa sul fatto che vabbè, il video come output per l'interazione sì, appunto di un sistema con delle regole che servono insomma ovviamente a creare intrattenimento, no? Poi in realtà adesso mi hai colto un po' impreparato, perché se me lo dicevi prima andavo a prendere proprio la definizione perché c'è proprio una definizione ben precisa comunque. In realtà non c'è, perché pure la definizione ben precisa, anzi esatto, più è precisa la definizione più è imprecisa in realtà, perché nel senso che esiste soprattutto su Wikipedia ma anche in altre situazioni una definizione precisa, che appunto finisco di puntualizzare sta cosa, che serve da spunto per il ragionamento, perché in realtà quando tu la leggi di per sé la trovi estremamente restrittiva. A questo punto la dico io, perché vai. Infatti, perché dice, secondo appunto anche altri siti come Wikipedia e altri, vabbè, il videogioco appunto può essere indicato come quel tipo di gioco elettronico, quindi già di per sé ci sta mettendo dentro e sbaglia tra virgolette anche esatto, così per diciamo la componente hardware, no? Sì. Che appunto ha a che vedere con l'interazione dell'uomo ovviamente attraverso un'interfaccia utente in grado di generare delle risposte visive attraverso uno schermo video come appunto una televisione o un monitor del computer, da sì, esatto, video infatti. Poi ovviamente c'è pure già anche da qua potremmo diciamo farci la cresta sopra, girarci perché e puntualizzare, in quanto per esempio anche la stessa cosa del video, dici schermo che cos'è, allora per esempio i primi dispositivi, quelli raster, non sono contemplati, perché andiamo a considerare diciamo appunto la televisione oppure esatto. Per esempio toglieremo, come li definiresti allora, gli scacciapensieri, ve li ricordate? Esatto, quelli schermi LCD, quelli di Game esatto, Watch eccetera, Game esatto, Watch, esatto. Però quelli sono giochi elettronici, non sono videogiochi. Ma rientrano esatto, di fatto. Il gioco elettronico allora non è un videogioco, esatto, l'electronic game. Questa può esatto, essere una delle tante definizioni che è stato dato. In realtà io sono molto meno classificatore in questo senso, nel senso che meno tutto rientra in quel concetto del gioco videogioco, sì, nel senso più largo del termine, no? Più ampio. Dentro poi noi ci possiamo andare a perdere nelle milioni di classificazioni, computer game, TV game, electronic game, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono definizioni che magari definiscono più la determinata tecnologia che è stata utilizzata in quel preciso periodo storico perché era in quel momento utile a fare il gioco, piuttosto che definiscono magari il genere del gioco, quindi adventure game, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in realtà dentro questa definizione noi adesso lo chiamiamo videogioco perché è un'interazione visiva, però in realtà dentro c'è un mondo intero, e questo mondo, come giustamente ha accennato Giuseppe, deriva dal fatto che il gioco di per sé stesso, il ludo, quindi è qualcosa che sta all'uomo da sempre. La voglia di giocare non è propria del bambino ma anche dell'uomo adulto. Esatto. Con la crescita, quindi con l'evoluzione umana, il gioco codificato diventa codificato con le regole, diventa qualcosa che è orizzontale, trasversale a tutta la storia umana. Io spesso inizio le mie conferenze sulla storia del videogioco parlando del Senet, che non so se sapete cos'è esattamente, ma in pratica, se qualcuno lo cerca poi su Wikipedia lo trova, è il primo gioco codificato più antico del mondo che si conosca, e deriva da circa tra il 3500 e il 3100 avanti Cristo, e è stato trovato alcune descrizioni in Egitto, dove appunto troviamo le prime documentazioni storiche di scrittura, eccetera. Sembrerebbe degli scacchi a vederlo, però non era gli scacchi, in realtà non è c'entra più una specie di backgammon. Sì, è una roba. Comunque è un gioco codificato, cioè un gioco che si gioca quindi con dei pezzi, con delle regole. Quindi con delle regole. I giochi, se vuoi, da tavolo, quindi quelli lì, gli scacchi, la dama, eccetera, ma anche i giochi di carte, poi i giochi sportivi con delle regole per sapere chi, come giocare, per sapere chi vince e chi perde, fanno parte della nostra storia, no? Soprattutto i giochi tendevano a simulare la realtà, le battaglie, no? Gli scacchi, i giochi con i soldatini, e da subito la tecnologia che era disponibile al tempo del gioco veniva poi subito declinata all'interno del gioco. Cioè, se si inventava la ruota, si usava la ruota per giocare, la sfera, le palle, le biglie, gli strumenti, quando si è iniziati a usare gli strumenti, il baseball, il golf, eccetera, il tennis, quindi all'interno del gioco venivano inseriti gli strumenti che con la tecnologia dell'epoca si riuscivano a costruire e utilizzare, quindi utilizzati nel gioco stesso. Tutto questo per dire che in realtà il videogioco, come ho detto, non ha un padre, perché in realtà è semplicemente l'utilizzo della tecnologia che si stava evolvendo. Alla fine del 1800, i primi del 900, iniziamo a vedere l'elettricità, prima, quindi le cose elettriche, elettromagnetiche, poi elettroniche, entrare nel nostro mondo. E queste cose da subitissimo, iniziano anche a essere pensate per essere utilizzate per giocare. E infatti io nella preistoria del videogioco ci metto anche tutta quella parte che noi oggi definiamo come elettromeccanica. L'elettromeccanica ha avuto un grandissimo impatto nella storia del divertimento e del gioco, perché praticamente agli inizi del Novecento, quando nel caso specifico è stata inventata una cosa che si chiamava fotodiodo, no? Il dio del fotodiodo è un'inversione dei primi del Novecento, nel 1930 circa, permetteva di misurare elettricamente delle fonti luminose. Questo ha permesso per la prima volta di cercare di immaginare dei giochi dove in qualche modo tu riuscivi a interagire con qualcosa di similare a quella che era la tecnologia utilizzata nel cinema, perché stiamo parlando della TV, la televisione non era ancora nata, e il cinema era il divertimento visivo per eccellenza. Certo. Quindi se noi riuscivamo a interagire in qualche modo con un'immagine luminosa, riuscivamo a creare un gioco che avesse per la prima volta un'interazione visiva. Quindi alla larga, se vogliamo, è un primo tentativo di videogioco. Non c'entra con i computer, non c'entra con la logica, quindi con l'elettronica vera e propria, se vogliamo. Però già era un prototipo di quello che poteva essere. E la prima macchina del 36 che ho messo e che abbiamo condiviso negli appunti, appunto questa macchina, la Rhyolite, no? Che poi questa descrizione con il trattino o trattino ci ricorda molto i cartoni animati della Warner Bros. Degli anni, sì, 40-50, sì, no? Con il famoso Willy Coyote che aveva tutti i Ray o qualcosa, sì, tutti, qualcosa. Tutti prodotti dalla famosa Acme. Sì, perché era un modo per dire, sì, è un po' come la I di e-commerce o la AI di Apple, no? Che adesso hai qualcosa, sì, sì. Al tempo, sì, si metteva, e poi tipicamente americana sta, sì, cosa, esatto, quel... se era una cosa tecnologica si metteva il raggio o qualcosa, no? Il Rhyolite Rifle della Seaburg del 36 è stato il primo esempio di gioco dove tu con un fucile sparavi a qualcosa che si muoveva su uno schermo che emetteva luce. In questo caso erano delle anatre, Duck Shot Game, che poi ce ne sono stati milioni di giochi ispirati a questo che sono andati avanti per anni. Per cui mi dispiace per tutti i nintendari, ma ricordate che non è stata Nintendo a inventare Duck Hunt, ma no, però c'era Nintendo, già da prima, c'era già da sì, prima, sì, però sì. Nintendo ha un merito, perché in realtà Nintendo, sì, è stata la prima a fare una versione domestica di questo, sì, di quella questo, diciamo fisica, quando produceva giocattoli, no? Esatto, che proiettava l'anatra sui muri, sì, e tu avevi la pistola per sparare alla... Ma io proprio infatti a quello, sai che mi ricordo proprio questo gioco qua, nelle sale giochi dell'uccello che veniva proiettato, esatto, sul, da nero lui veniva proiettato in bianco e tu sparavi all'oggetto bianco che si muoveva, quindi all'uccello, e quello cadeva. Ma ricordo come se fosse ieri, incredibile. Tutto questo mi fa sentire molto vecchio, tra l'altro. Sì, esatto, mi fa sentire anche a me molto vecchio a volte, però è vero, considera che questi giochi hanno un'origine molto più vecchia di noi, però, perché stiamo parlando di giochi che sono stati inventati praticamente alla fine degli anni 30 e primi anni 40. La diffusione mondiale si è avuta soprattutto negli anni 50, se vogliamo li consideriamo il periodo di Happy Days, no? Del telefilm che raccontato, certo, nel, certo, famoso, ed è coeva di tantissimi. Poi ci fu un'evoluzione tremenda sul gioco elettromeccanico, che quindi non utilizzava logica, diciamo, computerizzata. Poi andremo a vedere un po' in dettaglio anche che tipo di logica, anche precedente al microprocessore, ma in questo caso non c'era niente di logica, non c'erano dei transistor, non c'era una logica, ma era semplicemente meccanica appoggiata da un po' di elettronica che faceva riconoscimento ottico del bersaglio, piuttosto che semplice meccanica completa, come per esempio nei flipper, no? Flipper era il più famoso gioco, se vogliamo, elettromeccanico della storia, che è andato avanti decenni a essere giocato in questa sfera ancora oggi, tutto sommato, a modo suo, sì, ancora molto... sopravvive per i fan, insomma. Esattamente. E il, ma non solo il flipper, ci sono decine di migliaia di giochi che furono costruiti dal punto di vista elettromeccanico, e se vogliamo i giochi elettromeccanici, che quindi avevano un'interazione, arrivarono anche a essere molto vicini al concetto di videogioco, sia verso la fine degli anni 60, quando la stessa, uno dei più grandi produttori, oltre alla Seaborg che abbiamo citato, fu anche la Sega. La Sega produceva giochi elettronici, tanti marchi, la Williams, tanti marchi che poi negli anni 70 e gli anni 80 fecero un po' della storia del videogioco arcade, iniziarono producendo giochi elettromeccanici che utilizzavano magari schermi arrotolati in acetato che giravano, facevano vedere, non so, dei percorsi dove apparivano carri armati, eccetera, tu dovevi sparargli, spesso c'era, o sommergibili, c'erano i visori fatti a forma di visore per il sommergibile, piuttosto che il visore del carro armato in cui dovevi mettere, oddio, dentro gli occhi, tu giravi. Mi stai aprendo memorie ancestrali. Ce ne furono decine. Ne voglio citare uno in particolare, perché giusto per farvi capire fino a dove si è evoluta questa tecnologia. Per esempio, la stessa Namco e Atari produssero ancora nel 76 un gioco elettromeccanico che si chiamava Formula One, F1, nel 76, ed era un gioco incredibile, è coevo con i primissimi videogiochi arcade. Ma quando i videogiochi arcade permettevano la grafica, non so se vi ricordate come erano i videogiochi nel 76, stiamo parlando ancora, sì, di prima di Space Invaders, quindi i giochi più voluti erano Breakout e Pong e le varianti di Pong, Breakout, e qualche gioco con la grafica era nei due pistoleri che si sparavano, piuttosto che Road Champion della Williams, o Indie o Sprint dell'Atari. Vi mando il link, così i nostri ascoltatori non lo possono attualmente vedere, ma magari lo guardiamo noi e poi lo metteremo in qualche modo a disposizione negli appunti del gioco. Ecco, considerate, sì, che questo gioco aveva una grafica, sì, sì, derivata dal lo stavo vedendo dal cinema, era, usa tecnologia cinematografica per la proiezione. In pratica aveva un sistema di ottica che riproduceva su uno schermo, sì, quello che riprendeva un'ottica di un cerchio che girava, con sopra delle macchinine a modellini che tu giravi il volante, queste macchinine si muovevano e poi riproduceva un filmato di un'esplosione, filmato su pellicola, quindi complicatissimo, sì, cioè l'hardware interno, c'è un punto dove lo fanno vedere, è qualcosa di incredibile, ma tutto meccanico, tutto elettromeccanico, quindi siamo arrivati a essere molto simili, sì, al videogioco, pur senza utilizzare, noi una cosa come questa la chiamiamo videogioco, se la vediamo. Beh, questo già concettualmente sì. Sì, lo chiamiamo videogioco, anche se in realtà non essendo, non lo è. Però comunque la definizione. Per questo io dico la definizione che noi diamo di videogioco non deve essere così in realtà, perché per esempio vi faccio un altro esempio classico di cui voi nati negli anni 70 ve lo ricorderete, molti ragazzi non sanno neanche che ve li ricordate i giochi della Tommy Sabine in Italia. Sì. C'era un gioco che era diffusissimo quando eravamo piccoli, era una specie di gioco delle macchine che era fatto un portatile, aveva un volantino, era nero, e c'era un'automobilina che si muoveva a destra e a sinistra, tu la giravi col volante e in pratica lo schermo in pratica era un rotolo di acetato che girava, sì, sul quale c'erano disegnate le macchinine. Questo rotolo girava meccanicamente, aveva delle pile, c'era un motore elettrico che lo faceva girare e tu giravi la tua macchinina, che nient'altro che era una macchina di plastica piatta che girava su questo acetato, e se tu ti scontravi con le altre macchine segnava un contatto elettrico, esatto, e questa ti scontravi, aumentava la velocità, c'era il punteggio. Anche questo, se vogliamo, è un concetto di videogioco, però completamente meccanico anche in questo caso. Che dici adesso mi sfugge, ma il gioco Formula 1 me lo ricordo, come mi ricordo quasi tutto di quello che prima adesso abbiamo parlato, insomma, in maniera inquietante, ma è così, insomma. Ecco, e molto spesso noi ci siamo dimenticati questi giochi semplicemente perché è passato del tempo e quindi ormai la tecnologia ormai attuale non, certo, ha superato queste limitazioni e quindi non è più conveniente creare i giochi così, ma semplicemente per una questione di tecnologia. Quindi questo giusto per accennare il fatto che all'interno di quella che è la storia del videogioco, se vogliamo, c'è molto altro che non è il semplice videogioco classico col quale noi andiamo a pensare la storia classica del videogioco. E qua ci si potrebbe poi dedicare un'intera puntata sui giochi elettromeccanici, quindi fermiamoci per adesso con questo, secondo me, uno speciale anche extra che effettivamente, cioè, nel senso, come giustamente facemmo riflessione fra di noi nelle riunioni redazionali, insomma, prima di iniziare, cioè sì, però il gioco elettromeccanico in realtà non c'entra in teoria, no? Anche se poi, come diciamo, se non vogliamo essere restrittivi, comunque alcuni di questi un po' c'entrano. Però secondo me una volta un bello speciale su magari 4-5 giochi elettromeccanici più belli della storia, o che ne so, che ci ricordiamo di più, o chissà che cosa, potremmo anche farli. Poi sentiamo magari pure quello che dice il pubblico, insomma, perché... Assolutamente, non so se devi dire qualcosa di specifico tu, Simone, sul Riolite, lo mettiamo adesso, dopo? Dimmi tu. No, in realtà, perché poi noi volevamo inframmezzare un po' tra quello che raccontiamo anche la spiegazione proprio più specifica di quello che è il gameplay, però in realtà abbiamo già spiegato che questi giochi elettromeccanici in generale funzionavano in una determinata maniera. Poi c'erano giochi e giochi, appunto, c'era quello del piccione che tu sparavi, la pistola ottica, penso, insomma, col segnale di luce individuava che tu l'avevi preso, e il gioco comunque percepiva il fatto che il piccione era stato colpito e quindi doveva cadere giù, così come ce n'erano tanti, lo raccontavo anche prima della trasmissione, come quando tu il giochi dove tu bambino venivi messo sopra su questo cavalluccio che si muoveva con la pistola, la pistola finta, tu sparavi ai cowboy che passavano a destra e a sinistra e li buttavi giù. O c'era il gioco dell'orso, che c'era sempre questo orso che andava avanti e indietro, quando tu lo prendevi, cioè, quindi riuscivi a sparargli, si alzava in piedi, faceva e si girava e continuava a camminare e tornava a camminare dall'altra parte. E così come questo gioco nello specifico, il Riolite, cioè, se andate a vedere anche su YouTube, e anche qui probabilmente metteremo nella versione podcast della nostra trasmissione, metteremo un link, cioè il tizio che va avanti e indietro, ma se tu gli spari viene segnato il punteggio sopra, quante volte lo hai preso, e ogni volta che lo prendi lui cambia direzione, insomma. Quindi poi alla fine i giochi fondamentalmente erano, cioè i concetti di questi giochi qui erano praticamente sempre gli stessi, però cambiavano magari la forma, l'estetica, perché poi c'era tutto il lavoro dietro anche sulle figurine, sugli scenari dietro, sulla storia o il concetto del gioco stesso, insomma. Sì, sì, guarda, se approfondiamo la storia dell'elettromeccanico, hanno veramente inventato di tutto, cioè hanno fatto di tutto con l'elettromeccanica e hanno creato centinaia e centinaia di giochi diversi. Mi sa che Giuseppe invece non ne ha mai visto nessuno, Giuseppe, perché te sento silenzioso. No, di questi qua effettivamente no, forse uno di F1 cabinato, ma non mi ricordo se era funzionante, per la verità. Non l'avevo visto. Poi in realtà Rayolite, per la verità, proprio no. E comunque queste tipologie, oddio, quella diciamo che è detto col cavalluccio, mi ricorda qualcosa di analogo proprio nei parchi divertimento, tipo le giostre, no? Che c'erano sì, qua, sì, dove sì, anche tipo, esatto, dovevi sparare, però diciamo. Ero molto piccolo, perché mi ci portava il babbo quando avevo pochi anni. Vabbè, sì, almeno i flipper ci avrei giocato. Quello... No, i flipper sempre, anche perché per esempio quello era un genere preferito da mio padre. Quindi i flipper, devo dire che fino anche a quasi qualche anno prima di raggiungere la maturità, ci giocavo tuttora in quei pochi bar che rimanevano giù. Ma il flipper è un gioco nobile, dire, non solo, ma era più paradossalmente era più facile trovare ancora funzionante in un bar un flipper piuttosto che i cabinati, che poi col tempo se li cambiavano, avevano problemi poi ovviamente con l'usura eccetera, non funzionavano più, no? A volte infatti i gestori tenevano proprio anche spenti volontariamente. Il flipper ovviamente non ci voleva niente, anche perché era fondamentalmente gran parte della componentistica meccanica, no? Quindi se no c'erano le lucette e i display per tenere traccia del punteggio, ma poi di fatto no, bastava semplicemente avere un bel gioco di polsi, no? Non solo di polso, ma anche di reni a volte. Sì. Comunque in realtà noi nell'infanzia degli anni 70 ne abbiamo avuti tantissimi elettromeccanici, sì, a casa. Poi ve ne ho descritto prima uno, però vedrete che se ve li faccio vedere poi ve li ricordate. Adesso ne parleremo poi in un'altra puntata, questi elettromeccanici da casa portatili che negli anni 70 spopolavano in tutto il mondo. Comunque ritorniamo alla storia. Quindi siamo, dopo questa introduzione dovuta a quello che sicuramente ha influenzato il mercato del videogioco che è venuto dopo, cioè questo mondo del gioco elettromeccanico, ritorniamo poi al concetto vero di videogioco. Quindi come abbiamo definito prima, era un'interazione visiva col video. E a parte questa breve possibile interazione con le fonti luminose che abbiamo avuto con il rilevatore ottico di luce luminoso, in realtà il primo momento in cui finalmente si poteva controllare in tempo reale una sorgente visiva, perché ricordiamo il cinema non era in tempo reale, il cinema veniva sviluppato, c'era la pellicola, tu non lo registravi, poi dopo lo dovevi sviluppare, lo vedevi, ma non era una cosa in real time. La grande invenzione all'inizio fine 1800, inizi del 1900, fu l'invenzione del tubo catodico. Il tubo catodico che è quello che poi avrebbe reso possibile l'invenzione della televisione, ok? Però già sin da subito, cioè come ho detto sempre, come ho già detto prima, il fatto che venisse inventato qualcosa di nuovo e che venisse utilizzato in campo serio non impediva il fatto che qualcuno pensasse di poterlo utilizzare in campo ludico, cioè per giocarci oltre che per farci delle cose serie. Infatti, vabbè, l'invenzione del tubo catodico che risale a, come ho detto, alla fine dell'Ottocento, a opera del signor Ferdinand Braun, ovviamente tedesco, perché molte della tecnologia dell'inizio del secolo arriva da ricercatori e da quella che era la scienza sviluppata in Germania. La prima utilizzo fu ovviamente in campo scientifico, e fu subito utilizzato siccome poteva, questo tubo catodico permetteva di visualizzare un segnale luminoso. La prima cosa che si pensò di utilizzare era per fare un misuratore di qualcosa, e quindi l'invenzione principe fu quella dell'oscilloscopio, cioè quella che noi conosciamo oggi come oscilloscopio, cioè il fatto che se collegavamo a questo tubo catodico, quindi a questo tubo a vuoto sul quale un fascio di elettroni poteva venire visualizzato in tempo reale il punto dove questo veniva colpito, variando il segnale elettrico in ingresso, questo poteva disegnare delle onde che ci davano quindi un significato di misurazione di qualche tipo. Ok, questo per dirla in due parole veloce. Faccio una piccola puntualizzazione, perché sull'oscilloscopio i fan di archeologia, cioè, videoludica ci hanno sempre tacciato di non sapere cosa stiamo esatto. parlando. Cioè, è stata nella prima puntata della prima serie di archeologia videoludica, abbiamo parlato di questo oscilloscopio e non l'avessimo mai fatto. Niente, ci siamo portati da allora l'onta di aver spiegato male che cos'è l'oscilloscopio, Carlo, quindi figurati. Io non voglio spiegare che cos'è l'oscilloscopio, mi interessa solo che la prima cosa per cui fu utilizzato il tubo catodico fu quello. Ok, detto questo, il fatto importante è che finalmente c'era qualcosa, c'era un tipo di tecnologia, cioè il tubo catodico, che ci permetteva di disegnare in tempo reale qualcosa utilizzando l'elettronica, eccetera. Il primo che utilizzò fu un russo, in realtà, prima dell'invenzione del televisore, che utilizzando il tubo catodico vero e proprio disse: ah, ma ci posso anche fare dei disegnini, e fece una dimostrazione disegnando triangoli, cerchi, eccetera, utilizzando questo tubo catodico. Come ho già spiegato in archeologia informatica, l'invenzione dei computer e dell'informatica non si collegò immediatamente all'utilizzo del tubo catodico. Fu una cosa che avvenne poi negli anni successivi, e poi l'andremo a riprendere anche per la storia del videogioco. Ma dall'inizio in realtà il tubo catodico fu utilizzato per altre cose. E la seconda cosa in cui il tubo catodico fu utilizzato, oltre che per l'oscilloscopio, fu per visualizzare i segnali provenienti dall'invenzione del radar. Ok? Il radar, voi vi ricordate, se vi ricordate i vecchi film, fanno vedere un coso rotondo in cui il fascio che gira e si vedono dei puntini. Ecco, quel coso rotondo lì è un tubo catodico grosso. Perché all'inizio i tubi catodici non erano come gli schermi dei televisori squadrati, leggermente squadrati come siamo abituati, ma erano proprio rotondi, erano delle cose rotonde. Era proprio un tubo in cui questo tubo finiva, quindi veniva un cilindro, veniva tagliato, e c'era questo cerchio che era ricoperto di una sostanza che veniva illuminata dal fascio di elettroni, quindi coi fosfori emettevano della luce una volta che questo fascio di elettroni colpiva il punto in cui arrivava sullo schermo, e quindi riusciva a disegnare qualcosa. Il fatto dell'invenzione del radar, quindi della visualizzazione del radar, perché il radar, l'invenzione fu proprio il discorso di poter misurare un oggetto, visualizzare un oggetto alla distanza tracciando il segnale che andava e che tornava, no? Quindi questo era il radar di per sé stesso. Il tubo da catodico visualizzava questo segnale, dandocene una visualizzazione quindi grafica dei puntini, delle cose che il radar captava, e noi iniziamo a visualizzarli. Questo porta un certo signore nel 47, questo signore si chiama Thomas Goldsmith, a immaginarsi proprio immaginarsi, perché in realtà non è mai stato ritrovato un prototipo né costruito né funzionante né semifunzionante, ma l'unica cosa che è sopravvissuta è il brevetto depositato al patent del 25 gennaio del 47 di questo signor Thomas Goldsmith Jr., che brevettò il Cathode Ray Tube Amusement Device nel 47, cioè l'utilizzo di un tubo catodico come strumento di gioco, di amusement, di divertimento, ok? Sì. E lui cosa semplicemente si era immaginato? Il fatto che, siccome veniva utilizzato per il radar, per visualizzare il radar, lui si immaginò il fatto di costruire un'elettronica che visualizzasse un finto radar dove tu colpivi con i missili gli aerei, le navi, che ovviamente non erano graficamente disegnate, ma erano semplici puntini come nella puntini del radar, del radar. Esatto. Però se vogliamo adesso questo noi lo possiamo vedere come effettivamente il primo, la prima, diciamo, immaginazione del concetto di videogioco quasi moderno, cioè con l'utilizzo di un tubo catodico per la visualizzazione degli oggetti, e un qualcosa che noi andavamo a interagire su questo tubo catodico, quindi a sparare contro dei missili contro delle navi, eccetera eccetera. Beh certo, se è il video la discriminante per definire videogioco, sì, questo è chiaramente esattamente. Quindi però, come ho detto prima, in questo caso è la discriminante è il video, ma se la discriminante non è il video ma è il gioco di per sé stesso e l'elettronica che ci mettiamo dentro, ovviamente con l'informatica che in quegli anni stava nascendo, si stavano sviluppando i primi grandi computer a livello mondiale, per questo rimandiamo alle puntate di archeologia informatica se vogliamo saperne di più, ovviamente anche gli stessi ricercatori che lavoravano su questi computer, oltre a fare delle cose serie, sapevano che col computer, che quindi con i primi strumenti di elaborazione, si potevano anche fare delle cose di divertimento, quindi non solo serio, ma anche gioco, anche divertimento, che all'inizio era un divertimento serio, se vogliamo, un po' utilizzato forse come dimostrativo. Spesso, per esempio, il gioco, quello che viene considerato il primo gioco elettronico, in questo caso parliamo di gioco elettronico, come abbiamo detto prima, e non di videogioco, perché il video quei computer non ce l'avevano, ma avevano la visualizzazione dei risultati, avveniva tramite delle luci che si accendevano su dei pannelli, piuttosto che uscivano i risultati su nastri perforati che davano delle coordinate, eccetera. Comunque la Ferranti è la prima che dimostra al pubblico un gioco elettronico di qualche tipo, era il gioco del NIM che venne dimostrato in una fiera americana negli anni 30. Però già per esempio nel 47 Alan Turing sviluppò la prima teoria di un programma che giocava a scacchi sul Ferranti Mark I all'Università di Manchester, no? Quindi il gioco degli scacchi già veniva codificato all'interno di un computer, proprio per dimostrare il fatto che un computer poteva anche elaborare dei giochi complessi che anche gli uomini magari facevano fatica ad elaborare, quindi computazionalmente potevano avvicinarsi a quello che era un ragionamento di tipo umano. Queste sono tutte prime sperimentazioni, quelle che ho detto, sia quella che ho raccontato prima di, del Cathode Ray Tube Amusement Device, sia queste sperimentazioni di gioco su computer, ma se vogliamo mettere anche qui un punto, è forse quando tra il 46 e il 49 all'università inglese sempre, dove abbiamo per la prima volta un computer collegato a un tubo catodico. Per la prima volta nella storia era stato collegato a un tubo catodico, non per un motivo in realtà di mera visualizzazione come lo immaginiamo adesso. All'epoca erano stati interfacciati perché era un modo semplice per visualizzare gli stati delle locazioni di memoria, delle poche locazioni di memoria che aveva questo computer LED. Quindi non per visualizzare l'output delle informazioni del computer, ma per accendere praticamente le memorie che erano attive in quel momento. Esattamente, anziché farlo con tante luci, avevano utilizzato un tubo catodico e una matrice di 35x16 punti per visualizzare gli stati di queste locazioni. Una risoluzione pazzesca. Qua abbiamo un ricercatore, un giovane ragazzo dell'epoca, Alexander Douglas, che sta facendo la tesi, quindi deve scrivere la sua tesi di dottorato, e nelle sue sperimentazioni dice, approfondisce questo discorso di interazione uomo-macchina di cui abbiamo parlato ancora in archeologia informatica, ma in questo caso nella storia del videogioco è importante, perché Douglas cosa fa? Decide di utilizzare questa visualizzazione a matrice non solo per visualizzare il semplice concetto di stato di locazione di memoria, ma se lui agiva quindi con un programma in maniera corretta, poteva accendere e spegnere i punti che a lui interessavano e quindi visualizzare un qualcosa di più su questo schermo. Un qualcosa di più per lui fu la prima cosa che gli venne in mente è il gioco del cosiddetto Tris, quello che io chiamo Tris, sì, che poi in altre parti d'Italia si chiama Filetto, Filetto Zero Per, esattamente, insomma. E quindi creò, se vogliamo, il primo computer game, quindi un gioco su computer che programmato su computer, che però viene visualizzato su uno schermo. Era un gioco, un rifacimento di un gioco esistente, cioè di un gioco già conosciuto, però per la prima volta questo gioco non avveniva su carta, sabbia o altro metodo come qualsiasi, in tutti i banchi di scuola di tutto il mondo, ma avveniva con un computer. Avveniva con un computer su uno schermo del computer. Quindi è la prima volta che si ha una grafica su un video e che si interagisce quindi con questa grafica. Questo gioco poi verrà ribattezzato OXO. Noi adesso lo conosciamo come OXO, ma in realtà questo nome glielo diede un ricercatore di storia dell'informatica che ricostruì in seguito questi primi avvenimenti, andando a cercare il lavoro che fece Douglas nel 52 praticamente. Quindi Giuseppe, come si giocava a OXO praticamente? OXO, che poi sarebbe anche l'abbreviativo di Knots and Crosses comunque. Sì, di fatto vabbè, era praticamente il zero per che avete già accennato prima, ho detto prima Santa. La cosa particolare è che ovviamente mentre lo zero per cartaceo, no? Lo andiamo a fare noi con è un gioco appunto per due giocatori con due esseri umani, questo invece era ovviamente un gioco single player, così dire, dove si giocava, ovviamente si sfidava il computer e quindi c'era dietro anche tutto un lavoro di intelligenza artificiale, quindi era stata codificata nel programma, quindi Douglas aveva di fatto scritto anche il codice per le mosse della macchina. E la cosa particolare poi è che ovviamente, visto anche l'interfaccia limitata dell'EDSAC, del calcolatore su cui è stato creato, che poi comunque se andate a vedere le immagini di repertorio sono proprio come i mainframe che occupavano interi stanzoni ovviamente, la cosa particolare è che l'interfaccia di quel computer utilizzava proprio come nei vecchi telefoni, no? Una rotella. No, quella, la rotella numerata dei telefoni analogici di una volta di vostro dei vostri nonni, l'avete presente tutti, suppongo. Vabbè, noi ce l'abbiamo presente, quelli esatto. Più giovani non lo sanno, ma è così. Andate a cercare, oppure se ci avete ancora in città qualche vecchia cabina della Telecom non smantellata, no? Anzi, della SIP. Comunque, perché questa qua ovviamente doveva indicare le 9 posizioni, no? Di dove andare a inserire ovviamente o lo zero o la croce a seconda ovviamente del turno, e tu lo andavi a fare appunto girando con la rotella il numero il corrispettivo della posizione desiderata. Ovviamente era un gioco che andava a turni, quindi prima mi pare che prima forse cominciava il computer e poi toccava a te, e si alternava finché ovviamente le nuove posizioni non erano tutte occupate, o se prima uno dei due giocatori, quindi computer o essere umano, fosse riuscito a fare il tris. Questo, diciamo, è brevemente l'interfaccia di input dei dati, ricordi cos'era? Sì, era questa. Ah, vabbè, sì, dico, per poter indicare questa cosa, era appunto questa rotella che tu andavi a. Questa a rotella girare. Noi la conosciamo molto bene, perché l'abbiamo usata per anni in realtà. Noi vecchi qua. Sì, ecco, era... quella del telefono. Sì, ma l'ha detto prima comunque. Sì, l'ho detto. No, esatto. Ma la cosa divertente che volevo dire è che i ragazzi di oggi non hanno idea di che cosa sia effettivamente. Esatto. Cioè, se la faccio vedere a mia figlia, non sa neanche come si usa. Non capisce cos'è. Per noi era l'unico modo per l'inserimento di numeri in qualche modo in quel momento nel calcolatore, nel nostro utilizzo quotidiano, nel telefono. Sì, poi è affascinante, perché in realtà è vero, cioè nel senso, un ragazzo oggi a 16 anni non solo non ha idea che una volta i telefoni erano così, ma ci sono dei video su YouTube molto interessanti di giovani ragazzi delle scuole, di una scuola americana, messi di fronte al telefono, capiscono in qualche maniera che è un telefono, perché lo capiscono, cioè con la cornetta, perché ancora oggi un po' l'iconografia del rispondi al telefono è una cornetta verde, no? Quindi più o meno riescono a capire, però chiaramente gli sfugge il meccanismo, insomma, del esatto. Ah, proprio anche in virtù di quello che avevo detto del voluminoso spazio occupato dal calcolatore, no? Ovviamente questo Oxo non era mai non fu mai, diciamo, mostrato o utilizzato comunque dal pubblico generalista, perché ovviamente poteva essere solo giocato se facevi parte o comunque andavi all'università di Cambridge, al laboratorio di matematica, ovviamente ottenendo un permesso speciale, proprio perché appunto il calcolatore in sé non lo potevano portare da altre parti, perché occupava un intero stanzone. Assolutamente, ma questo per tantissimi anni a seguire, fino praticamente agli anni 70 in pratica, finché non c'è stata la rivoluzione appunto proprio dell'home computer. Esattamente. Proseguiamo un attimino e andiamo avanti. Adesso c'è il famoso discorso, forse su questo avete parlato all'inizio, il famosissimo tennis for two, no? Che viene citato a destra e a sinistra, che appunto il sistema di visualizzazione fu proprio un oscilloscopio, e forse su questo che avete parlato all'inizio, dove siamo inciampati gravemente. Però come ho detto prima, non interessa spiegare cos'è esattamente, cioè come funziona un oscilloscopio. L'oscilloscopio è uno strumento di misurazione che utilizza un tubo catodico per la visualizzazione del segnale, ma nell'utilizzo di tennis for two non è utilizzato come oscilloscopio, è semplicemente un mezzo per poter visualizzare un qualcosa che veniva elaborato da che cosa? Veniva elaborato. Ah, ecco, una premessa importante. Ecco, come giustamente hai detto tu prima, nessuno ha visto Oxo, come pochissimi conoscevano le sperimentazioni che venivano fatte sul gioco degli scacchi, piuttosto che le altre ricerche informatiche dell'epoca. Era qualcosa che veniva conosciuto in una ristrettissima cerchia di ricercatori addetti ai lavori. Quindi noi stiamo parlando di sperimentazioni che noi adesso le ricordiamo come primi esperimenti, come prime idee, ma hanno avuto zero impatto su quella che è tutte queste cose che mi ha detto fino ad ora. Forse ha avuto più impatto gli elettromeccanici, anzi senza forse, sicuramente nella storia del videogioco ha avuto più impatto i giochi elettromeccanici della Seaborg che ho citato all'inizio, e tutti i giochi elettromeccanici che sono venuti dopo, piuttosto che queste sperimentazioni. Queste sperimentazioni sono divertenti, sono famose adesso perché le andiamo a ricercare, ma all'epoca furono veramente conosciute da una manciata di persone, e soprattutto gli stessi che le facevano, nessuno aveva idea di quello che faceva l'altro. Cioè Iggy Bottom, che faceva nel 58 Tennis for Two, non aveva nessuna idea che nel 51 la Ferranti avesse fatto Nimrod e nel 52 Douglas avesse fatto Oxo Nut & Crosses in Inghilterra, ok? Come nessun altro aveva idea che nel 58 Iggy Bottom fece questo Tennis for Two. erano semplici sperimentazioni. Se vogliamo Tennis for Two, oltretutto proprio dimostrative, perché nasce Tennis for Two? Tennis for Two nasce perché in realtà Iggy Pop lavorava in una società legata al Dipartimento dell'Energia americano, i Brookhaven National Laboratories, in cui sviluppavano dei computer analogici. Brevemente, cosa sono i computer analogici? Ne abbiamo già parlato in archeologia informatica, ma in pratica si tratta di un computer analogico, è praticamente un computer che esegue una sola e determinata funzione, quindi non è un computer multipurpose, quindi che ha una CPU, un'unità di elaborazione che permette di essere programmata per risolvere problemi disparati, ma è un computer, una logica elettronica, una transistor logic, che viene costruita appositamente, quindi cablata, per risolvere un determinato problema. Ok, considerate che gran parte dei videogiochi famosi nei primi anni 70, gli arcade, da Pong a Breakout a tanti altri, erano così, cioè erano delle logiche cablate, i famosi giochi TTL li chiamiamo adesso, no? Cioè delle elettroniche costruite apposta per fare quel gioco. In pratica tu è come se non fai un programma, ma programmi l'elettronica, cioè tu disegni l'elettronica in modo che esegua una serie di operazioni logiche che eseguono quel programma. I computer analogici che progettavano al Brookhaven servivano per il calcolo balistico, cioè erano dei computer costruiti e progettati solo per fare il calcolo balistico dei missili. Ok, quindi dovevano, dati degli input di traiettoria, dovevano calcolare dove andava a finire questo missile, e il disegno spesso della traiettoria veniva visualizzato tramite l'oscilloscopio. In questo caso Guy Bottam decise che per dimostrare la bontà del calcolo della traiettoria, del calcolo balistico di questi computer che progettavano, fosse una bella idea farlo tramite un gioco, che semplicemente pensò al gioco del tennis, perché gli permetteva di fare la balistica della pallina, cioè del calcolo balistico della palla che andava da una parte all'altra del campo di gioco da tennis. In cui cioè, stiamo parlando sempre di strumenti di morte, no? però ve li presentiamo con un giochino innocuo, insomma. Considera che la gran parte degli anni, se ci fosse un intermezzo musicale, adesso potremmo metterci Nola Gay, giustamente, perché il periodo era quello, ci si divertiva e si facevano le bombe atomiche. Comunque in quel caso il calcolo balistico veniva quindi visualizzato tramite, se voi poi vedete i video del gioco di vedete proprio che non c'entra niente col Pong come abbiamo immaginato dopo, era proprio un tennis in cui vedete proprio la pallina che va da una parte all'altra, e si vede proprio la traiettoria che descrive, sì, la pallina. L'input della traiettoria gli veniva dato tramite dei potenziometri che gli davano semplicemente il grado di digitato, no? 45 gradi, 90 gradi, e col pulsante si decide al momento in cui dare questa spinta alla palla. E il gioco era, uno doveva rispondere all'altro fino a quando la pallina cadeva poi due volte nel campo dell'avversario, quindi quello non poteva rispondere rimandando la palla dall'altra parte. Tutto questo era costruito tramite un computer cablato, quindi analogico, costruito per dimostrare la bontà dei loro computer analogici nel calcolo della traiettoria. Quindi anche questo è un esempio molto famoso, ma come ho già detto e come ripeto, ha poca incidenza nella storia vera e propria del videogioco, perché rimane e resta un esperimento, una sperimentazione. Ok, tutte queste, ce ne sono tante altre di sperimentazioni. C'è il Mouse in the Maze del 59, il Tic Tac Toe nel Tic Zero del 61, tante sperimentazioni che rimangono nell'ambito universitario. Ce n'è una però in particolare che, se vogliamo, è una chiave di volta e va assolutamente citata. È lo Space War del 61. Perché lo Space War del 61 è è importante rispetto a tutti gli altri per diversi motivi. Allora, innanzitutto siamo già nel 61, quindi i computer iniziano a evolvere, iniziano a diventare qualcosa di un po' più simile a quelli che noi concepiamo oggi come computer. Consideriamo che nel PDP-1, quello su cui si sviluppa questo gioco di Space War, che era ovviamente disponibile solo al MIT, solo nelle università eccetera, che si parla ancora di grandissime in-frame da centinaia di migliaia di dollari, però abbiamo già un terminale con un'interfaccia a tubo catodico, uno schermo a 19 pollici, sempre rotondo, però bello grosso, che veniva utilizzato effettivamente come interfaccia di input-output, di output del computer stesso, del PDP. Questi studenti, tra cui Martin Greitz, Steve Russell, li citiamo perché nella storia del videogioco sono molto importanti, concepiscono un gioco che inizia a diventare, dicono, ma sì, ma noi adesso possiamo sì fare un gioco con il calcolatore, però inventiamo un qualcosa di un pochino più complesso del semplice simulazione di qualcosa che già esiste, quindi del fatto di giocare a tennis, giocare a scacchi, il gioco del NIM, il gioco del Tris. No, immaginiamo quasi un qualcosa che noi ragazzi di quegli anni leggiamo nei libri di fantascienza o vediamo nei film di fantascienza del cinema dell'epoca, cioè guidiamo un'astronave nello spazio e andiamo a combattere gli alieni. Questo è già una cosa importante, perché per la prima volta viene creato un gioco su qualcosa che prima di allora non era possibile giocare. Cioè solo nella nostra immaginazione si poteva giocare a qualcosa di dire guido un'astronave piloto un'astronave nello spazio e sparo agli alieni. Sì, ci potevamo giocare, nel senso che ci costruivamo una pistola di legno e andavamo in giro a fare piu piu piu piu così con la voce, ma proprio simulare. No, ma come hai fatto? Hai indovinato quello che facevo io da ragazzino, come fai? Quello che facevamo un po' tutti, per la verità. Esattamente. Ma invece qua per la prima volta questi studenti dicono, ah, ma cavolo, ma noi possiamo disegnare la simulazione di quello che per noi è fantascienza e giocarci. Cioè non facciamo Space War, cioè noi guidiamo un'astronave nello spazio che spara un'altra astronave e segue delle regole che possono avvenire nello spazio, quindi l'avvicinamento a un buco nero con l'aumento della gravità eccetera eccetera. Diciamo, ecco, allora facciamo una cosa, prima che tu continui in questa digressione anche storica, facciamocelo un attimo raccontare da Giuseppe com'era Space War, poi io punterei anche l'attenzione un attimo sul fatto, ma voi ve lo immaginate l'entusiasmo di questi studenti, cioè voi immaginate gli studenti di allora che erano di fronte veramente a una frontiera, cioè senza orizzonte praticamente, ed erano lì e sperimentavano studiando, quindi probabilmente con entusiasmo, con divertimento, rispetto magari a quello che si fa oggi nell'università, a meno che non sei veramente un ricercatore a un certo tipo di livelli, però oggi già il concetto di frontiera secondo me non esiste più, no? Non so se Carlo è d'accordo. Beh, che non esista più il concetto di frontiera non sono d'accordo, perché la frontiera va sempre avanti e quindi ci sono degli ragazzi entusiasti adesso all'università che stanno facendo cose che noi già non ce ne immaginiamo neanche, però ce ne immaginiamo tra il futuro. Però invece sono d'accordo sul fatto dell'entusiasmo, sicuramente quelli erano entusiasti di quello che stavano facendo, che li stavano creando in quel momento, perché stavano creando qualcosa che non c'era, qualcosa che per a loro divertiva tantissimo, tanto perché che poi divertì anche tanti altri. Ma se vuoi approfondire il gameplay, vai pure. Vai Giuseppe. Così poi ci costruiamo. Allora, sopra, per quanto riguarda il gameplay, immaginate semplicemente che questo ovviamente si tratta di un gioco per due giocatori umani in questo caso, quindi un gioco multiplayer, che si sfidano ovviamente in una specie di battaglia spaziale di tipo, quindi un gioco di dogfighting spaziale. Ciascuno dei due ai comandi di una corrispettiva navetta, una particolare che ha la forma di appuntita, tipo di missile, e un'altra invece un pochettino più tondeggiante. Ovviamente questa è volutamente per differenziarle, visto che stiamo parlando sempre di qualcosa che traccia dei segnali luminosi, non c'è grafica, non ci sono colori, quindi ovviamente bisognava in qualche maniera molto semplice però efficace differenziarle, no? Queste due astronavine praticamente appunto dovevano distruggersi a vicenda e potevano muoversi, e anche questo, anche i comandi sono molto particolari, perché tu in realtà siccome vedevi tutta la mappa di gioco, che era fondamentalmente lo spazio con al centro una specie di stella che fungeva da praticamente da pozzo gravitazionale, tant'è che infatti il gioco stesso implementava pure praticamente le leggi della fisica newtoniana, quindi in pratica mentre le due astronavine gravitavano attorno a questa stella, se tu acceleravi deceleravi, man mano ovviamente il tuo movimento, quindi la tua accelerazione centripeta eccetera a distanza dalla stella, variavano e venivano calcolate in tempo reale e visualizzate dal era il PDP-1 mi pare quello del esattamente, sì, esattamente e ovviamente come tu come comandi potevi semplicemente variare l'orientamento dell'astronavina e appunto decidere se accelerare o decelerare. Poi potevi anche, ovviamente, perché dovevi distruggere l'avversario, lanciare dei missili, delle torpedini, che ovviamente queste qua erano anche in numero contato, quindi ovviamente dovevi... E non solo era contato questo, ma era anche contato lo stesso carburante della tua astronavina, quindi non potevi continuare ad accelerare, a parte che se ovviamente acceleravi poi molto, finiva anche male, perché poi le collisioni potevi anche andare a schiantarti contro la stella di prima, però ovviamente anche c'era anche, diciamo, fungeva anche da fattore tempo, perché dovevi essere bravo a gestire non solo le risorse delle tue munizioni, ma anche un numero limitato degli spostamenti, ma contrastando al tempo stesso anche l'avversario, oltre che evitando di schiantarti nella stella di qui sopra. E un'altra cosa che poi che tutto non era neanche stata introdotta nelle prime versioni, fu poi in seguito aggiunta da sempre più appunto studenti appassionati del MIT, era anche la possibilità di fare il cosiddetto, come c'è anche in Star Trek eccetera, il warp, no? Entrare diciamo a velocità iperluce Un po' Asteroids, anche un po' Star Wars. Sì, sì, questo praticamente sarà il precursore di tutta una serie di giochi, tra cui anche lo stesso Asteroid. È seminale. Abbiamo raccontato, infatti vedi già tu hai detto ma mi ricorda, in realtà ricorda tantissimi giochi, sì, sì, che sono Galaxy Game, Computer Space, sì, sì. decine di giochi che sono arrivati dopo, sì. Questo anche dell'iperspazio oltretutto pure era anche quello, diciamo, una mossa che tu facevi, infatti il pulsante veniva chiamato scherzosamente il panic button, che ricorda anche il famoso riferimento a Douglas Adam, guida galattica dell'autostoppista, esatto, che praticamente appunto ti permetteva di teletrasportarti istantaneamente in un punto random della mappa, quindi potevi anche finire vicino alla stella schiantarti e morire nel tentativo invece di salvarti, ecco, sia la guida galattica è successiva, esatto, è stato ispirato, esatto, anche lui da questo gioco in realtà nelle versioni successive sempre implementate dagli studenti del MIT, anche questo, diciamo, più lo usavi, più poi aumentava, diciamo, il fattore di rischio che potevi praticamente distruggere in automatico la tua navetta, per renderlo ovviamente ancora più difficile e coinvolgente il gioco. Questo, diciamo, è più o meno il succo del gameplay, che se ci pensate, rispetto ai giochi che abbiamo anche precedentemente citato oggi, abbiamo fatto grossi passi avanti, nonostante il gioco alla fine dice il concetto sì, c'è una complessità strutturale di fondo, cambio di paradigma assoluto, che è quello che ho detto prima, cioè qua finalmente loro decidono di capiscono che possono realizzare qualcosa che non esiste, cioè un gioco che non è basato su qualcosa esistente nella realtà, ma qualcosa di immaginario. Esatto. E non a caso poi questo gioco, a differenza anche di quello che abbiamo detto prima di Oxo, questo qua ci furono dei tentativi, se ti ricordi, Santa, anche di portarlo a livello commerciale con non solo, sì sì, perché è un cambio di paradigma per diversi fattori che adesso prima una piccolissima nota tecnica che so che piacerà soprattutto a Pizzi. La grafica di questo gioco com'era, Pizzi? Come la definiresti tu? In vettoriale. sbagliato, non era vettoriale. Era vettoriale. Non era vettoriale, è una cosa che comunemente la gente crede. In realtà la tecnica di visualizzazione vettoriale coeva, cioè degli stessi anni, ma non fu usata per questo gioco, perché il PDP permetteva, il PDP 1, che è il computer su cui viene creato questo gioco, permetteva di lavorare con il suo schermo, il suo display, il Type 30 Precision CRT display, in due modi. Anzi, in tre modi in realtà. Il primo modo, però, è quello su cui realizzarono il gioco. Era praticamente una bitmap di 1024x1024 punti. Tu dici, ah, Madonna, che risoluzione! In realtà, sì, 1024x1024 punti, ma non potevi accenderli tutti. Il problema era che tu questo ne abbiamo parlato pure in AI, potevi accenderne solo 20.000 al secondo su un milione di punti dello schermo che avevi, della matrice 1024x1024 ne potevi accendere 20.000 al secondo come velocità. Quindi tu potevi creare delle immagini fatte di punti, ma per forza di cose dovevano essere limitate nel numero di punti utilizzato, perché tu non potevi disegnare tutti i punti dello schermo e quindi fare una grafica molto definita. Per questo abbiamo quelle astronavine che sono disegnate in maniera approssimativa, ma da dei puntini ravvicinati tra di loro, non proprio attaccati, e non è vettoriale, perché vettoriale avrebbe disegnato delle righe piene molto più geometriche, come Asteroids, che fu negli anni 70 un altro gioco di rilievo. Asteroids che era in vettoriale. Asteroids era in vettoriale. Io vorrei anche aggiungere un'altra piccola curiosità tra virgolette, per farvi sempre dare un'idea, diciamo, che è qualcosa che viene fatto appunto sperimentato su un calcolatore che ovviamente a priori non era nato per questa tipologia di applicazione, ok? In pratica, ovviamente ho detto che era un gioco a due, quindi ovviamente ci devono essere due giocatori che dovevano stare, tra virgolette, una a sinistra e una a destra, stretti attorno ovviamente a questo monitor e a questi pochi tasti che c'erano. La cosa bella è che ovviamente questa cosa, immaginatevela, era molto scomoda, tant'è che infatti si creavano a volte dei problemi nel girare queste manopole, perché qualcuno accidentalmente rischiava anche di girare quella per spegnere il calcolatore. Allora loro cosa fecero intelligentemente, Kotok e Saunders? Crearono una versione, diciamo, a parte del controller dei tasti di input, andando di fatto a creare uno dei primi prototipi di gamepad della storia, di controller della storia. È vero, confermo. Non solo, Space War, come tu dicevi, fu seminale. Perché? Perché creando questo gioco, al contrario degli esperimenti che abbiamo citato fino adesso, questa cosa fu talmente esplosiva nel successo che ebbe all'interno della stessa università, cioè litigavano i ragazzi, gli studenti, e si arrivava veramente a litigare per andare a giocare a Space Wars sul PDP. E non solo, si diffuse subito, immediatamente, cioè dove c'era un PDP nel giro di 3 secondi c'era qualcuno che andava sopra a implementarci Space War, migliorandolo, facendo. Quindi si diffonde in maniera virale in tutte le università, in tutti i centri di ricerca degli Stati Uniti prima e del mondo dopo. Perché? Perché era qualcosa di talmente nuovo, talmente mai visto e talmente divertente, soprattutto per gli universitari che avevano quindi, diciamo, perché il gioco che hai spiegato non è semplicissimo, quindi era un gioco che comunque attira chi aveva già una cultura medio alta per riuscire a giocare a questo tipo di gioco. Però considera che i nerd di quel periodo lì, i proto nerd, erano una roba che li faceva impazzire, quindi è una cosa che si diffonde immediatamente, quindi ha un eco a livello mondiale nell'ambito della ricerca universitaria incredibile. Tanto che cosa succede? Che, come hai detto tu, addirittura qualche anno dopo, una decina di anni dopo, all'università di Stanford si decide di dedicare un PDP 11, quello era un PDP 1, ok? Nel 71 un PDP 11 con una versione migliorata di questo Space War che si chiama Galaxy Game, si decide di crearne una versione a pagamento, perché gli studenti ci volevano talmente giocare che dicono, allora noi mettiamo un PDP 11 con collegati dei terminali col monitor con su questo gioco Galaxy Game, e se tu ci metti le monetine ci giochi, ok? Quindi creano il primo coin-op della storia. Esatto. Nel 71 creano il primo coin-op su il PDP 11 all'Università di Stanford, e non solo, creano i primi joystick, perché per i comandi utilizzano delle leve, ok? Quindi ci piazzano sopra quelli che poi verranno conosciuti come joystick. Questo succede nel 71. In realtà è qualcosa, come ho detto prima, che il videogioco ha tanti padri, eccetera eccetera, tante idee, perché in realtà sono tante idee che poi convogliono tutti a uno stesso destino. E il signor Nolan, che abbiamo conosciuto, esatto, avuto il piacere di conoscere qualche anno fa alla Games Week, fu anche lui uno studente universitario che fu folgorato dalla visione di questo Space War, e infatti invece la sua idea fu quella di portarlo commercialmente anche questo sul mercato. Però siccome i computer costavano tantissimi soldi, al posto di fare come fecero la Stanford University usando il PDP-11, decise di costruire un'elettronica ad hoc, quindi un computer analogico, come ho spiegato prima, per creare un mobile, quindi un arcade game che andasse a mettersi vicino a quelli che erano i giochi elettromeccanici dell'epoca, ma finalmente con un gioco elettronico, videogioco, quindi con un tubo catodico. Era Computer Space, che esce sempre nel 71, ok? Però qua mi fermo, perché qua poi inizia la storia del videogioco, quindi torno un attimino indietro in realtà adesso, cioè faccio un piccolo passettino indietro. Sì, posso fare una domanda però prima? Sì. Perché tu hai detto, vabbè, da questa idea di Space War alla fine poi è nato anche il concetto della commercializzazione. E, ma non solo da questo è uno di quelli, ok, che però la domanda che mi faccio io è chi li beccava i quattrini, ma alla fine, a parte Nolan, che insomma faceva come gli pareva, che risolveva. Vabbè, la di ma sicuro non gli studenti del MIT non li hanno beccati loro i soldi. Vabbè, perché ricordiamo che comunque il PDP-11 ai tempi costava $20,000, penso che andassero a ripagare le spese insomma di acquisizione anche di mantenimento del laboratorio di Stanford. State facendo l'errore classico, cioè state contestualizzando una realtà con qualcosa con gli occhi di adesso, cioè a quell'epoca loro stavano creando qualcosa che non esisteva. No, cioè, ma io stavo scherzando, cioè, okay, era sempre una battuta, no? Perché quando si parla di commercializzazione, ho pensato alla faccia di questi studenti super entusiasti, perché avevano creato qualcosa veramente di nuovo, no? Quello che diciamo prima, no? Poi improvvisamente sono venuti a sapere che qualcuno ci ha beccato i quattrini con questa cosa, e le loro facce da super entusiasti sono diventate, capito, tipo, no, capito, io mi sono sgombato. No, ma scherzo. Chiaramente succede sempre così, succede sempre così, la storia è sempre un ricercatore che lavora e qualcuno sempre, però il ricercatore fa ricercatore proprio perché non è attaccato ai soldi generalmente, cioè comunque il concetto è come il ricercatore inglese che ha inventato World Wide Web, come si chiama, che è stato fatto baronetto, cioè lui è contento così, è contento oppure di essere. Oppure Wozniak, che a lui piaceva costruire i computer. Wozniak relativamente, perché anche lui è diventato ricco. Vabbè. Però quello diciamo è un'altra cosa. Ma secondo cosa, me è meno ricco di quello che avrebbe potuto. Boh, mi accontenterei di essere ricco come Wozniak. Anch'io. Anche lì il concetto poi di Wozniak, stiamo parlando di altro, quindi non c'entra niente. Perché Wozniak non era ricercatore, lui era uno che gli piaceva smanettare. Poi lo smanettone. Era lo smanettone che ha trovato qualcuno che è riuscito poi a commercializzare quello che produceva. Però qua stiamo parlando proprio dell'ambiente della ricerca, quindi di chi effettivamente inventava, cioè creava queste, di chi tira fuori il quid e che poi diventa il seme, perché si dice l'idea seminale, qualcosa che poi ha dato il via, perché è proprio così, cioè al contrario di tutto quello che abbiamo detto prima, effettivamente Spaceworld è stato seminale per tantissime cose. Di contro però, come ho già detto, l'idea del videogioco nasce perché era il momento, quindi come c'era questa ricerca nel 61 del MIT che dava poi adito a le cose che abbiamo visto dopo e quindi contribuisce all'inizio del mercato del videogioco, c'era qualcun altro che stava contemporaneamente pensando le stesse cose, non solo lui, diciamo che lui è quello che lo realizza, ma come torniamo all'inizio, inizio, cos'è che ho detto? C'era questo tizio qua che si era immaginato, Goldsmith, che si era immaginato di fare il gioco utilizzando lo schermo del radar, poi non l'ha fatto lui. Contemporaneamente un altro che viene spesso ricordato come padre fondante era Ralph Baer, no? Scomparso recentemente, qualche anno fa, che nel 66 si immagina, lui lavorava, ecco, Ralph Baer, considerate che il suo lavoro, lui era un ricercatore anche lui, però anziché essere un ricercatore all'interno di un'università, lui era un ricercatore all'interno di un'azienda, la Sanders, che era un'azienda che finanzia proprio ricerche di ricerca e sviluppo, perché finanziandole, inventando le cose, le brevetta e poi le vende. Di solito l'ambiente principale in cui la Sanders operava era quello militare, cioè le ricerche, creava qualcosa che poi veniva venduto di solito all'esercito americano, generalmente. Però nell'ambito delle ricerche che la Sanders fa effettuare ai suoi ricercatori, saltavano fuori di tutto e di più, e tra cui tecnologie che poi venivano vendute a un'azienda piuttosto che a un'altra per essere commercializzate. Baer, che fa parte, è un dipendente della Sanders, e nel caso specifico lui si immagina nel 66, in cui consideriamo che sono anni in cui la televisione come elettrodomestico si sta effettivamente diffondendo in tutto il mondo e nelle famiglie, ne entra nelle case, e che era generalmente un mezzo passivo, quindi utilizzato come il cinema, cioè quello che la televisione ti faceva vedere, tu lo vedevi e fine. Però lui già immagina, da elettronico, da ricercatore, che la televisione può essere utilizzata anche in maniera attiva, cioè io posso giocarci con la televisione, posso utilizzare lo schermo della televisione per giocare. E quindi inizia all'interno della Sanders un'attività di ricerca per creare un qualcosa che ti permettesse di giocare, di interagire con lo schermo televisivo. In questo caso non stiamo parlando di computer, quindi non fa parte di quello che ho citato poc'anzi, quindi della ricerca informatica vera e propria che ha portato poi alla creazione di computer space, eccetera, ma fa parte proprio della semplice, se vogliamo semplice tra virgolette, ricerca elettronica, quindi delle costruzioni elettroniche, quindi utilizzando integrati logici, TTL, che permettessero di creare qualcosa di semplice che mi permettesse di interagire con lo schermo della televisione e di poterci giocare. E quindi lui crea quello che adesso noi ricordiamo come la famosa Odyssey, uscita nel 72 dalla Magnavox. Però lui questa la crea prima, la crea nel 66-67, la chiama Brown Box, no? La scatola marrone, in cui lui poi teorizza proprio la cosa più importante che lui teorizza fu questo gioco del tennis fatto con dei quadrati, che poi in realtà sta alla base dell'idea del Pong, il primo videogioco che ebbe successo mondiale commercializzato dall'Atari nel 72. Proprio per tipologia di nascita e di ideazione, i suoi giochi erano molto semplici, erano alla portata di tutti, perché lui aveva nell'obiettivo, già nella testa, l'idea di creare qualcosa che venisse utilizzato da chiunque, dall'uomo comune della strada. Quindi non va a immaginare o a creare delle cose complesse come il Space War che abbiamo citato prima, fatto da ricercatori universitari che quindi ci mettono dentro la fisica con la forza di gravità, le astronavi, eccetera eccetera. Si va a immaginare dei giochi molto molto semplici, il tag, cioè il gioco del come si chiama, la capparella, no? Ti rincorro, se ti ho preso, no? Tac, preso, piuttosto che il semplice appunto gioco del del ping pong, del tennis, lo teorizza come tennis eccetera, fatto con un'elettronica molto semplice, che quindi fosse economica, che quindi visualizzava dei semplici quadrati sullo schermo, no? Questi pixeloni giganteschi che potevano essere mossi e interagire tra di loro. Addirittura l'elettronica che disegna all'inizio, stiamo parlando comunque di un'elettronica che fa parte della fine degli anni 60, è talmente semplice che non permette neanche di memorizzare il punteggio o anche di creare una logica che non sia semplice logica di tipo connetto due, cioè si toccano due quadrati e quindi succede qualcos'altro, no? I giochi che crea hanno una componente umana molto forte, cioè in realtà i giochi di questa prima console che esce poi come Odyssey, se li guardiamo adesso, sono dei giochi che hanno un'interazione, cioè hanno una componente, sono quasi più dei giochi da tavolo che utilizzano lo schermo del TV come mezzo di gioco al posto delle pedine, se vogliamo, ok? Cioè è un qualcosa che sta a metà strada tra il classico gioco da tavolo e il gioco del computer, quindi è quasi un proto videogioco, se vogliamo. Comunque è importante perché lui lo pensa già come prodotto commerciale, lui lo pensa già per tutti. Questa cosa della logica del gioco per tutti influisce poi la nascita del mercato del videogioco che vediamo nel 72, perché Bushnell, che ci prova prima con questo suo gioco simile a Space War, no? Computer Space, si accorge che non lo giocano perché è molto complesso e quindi ci giocavano solo gli universitari, mentre la gente comune aveva bisogno di qualcosa che fosse molto più semplice da capire e da giocare. È per questo che poi può produrre nel 72 questo Pong, che se vogliamo è effettivamente ispirato al gioco inventato da Bayer nel 66. Ecco, questo brevemente, molto brevemente, abbiamo fatto un excursus. Ci sarebbe da citare anche l'invenzione del BASIC e il fatto che iniziano a sviluppare decine di giochi in BASIC tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 sui primi mainframe e computer, cosa che abbiamo citato nella penultima o nell'ultima puntata di Archeologia Informatica, scusa Simone, nell'ultima puntata abbiamo parlato del BASIC, se non sbaglio. Ecco, nell'ultima puntata in cui parliamo del BASIC, come ho detto, negli anni 60, lì c'è un'evoluzione di tantissimi studenti che poi si mettono a creare i loro giochini, poi da lì nasceranno tutti i giochi anche se vogliamo più complessi, quindi la nascita delle avventure, dei mood, di tutto il resto che fa parte sempre del videogioco, ma è il videogioco complesso, il videogioco del film interattivo, no? Che arriverà poi in seguito oltre all'arcade. Però una cosa importante, ecco, l'arcade è il primo gioco che si sviluppa, cioè il primo videogioco che si sviluppa è quello, se vogliamo, arcade, perché alla fine abbiamo visto che, a parte le prime sperimentazioni basate su giochi esistenti, tic-tac-toe, tennis, eccetera, l'ispirazione di utilizzare giochi semplici con la Brown Box di Bayer, alla fine il primo vero videogioco della storia che possiamo considerare seminale, Space War, è uno spara-spara alla fine, quindi un gioco. Beh sì, perché comunque anche non, magari non come meccaniche ma come concezione erano più immediati, no? Nel senso, non è che dovevi alambiccarti nella storia, trovare soluzioni, enigmi e roba del genere, il gioco era proprio immediato, quindi risultava più divertente per una più ampia fascia di pubblico, insomma, quindi è chiaro che funzionalmente, ma ancora oggi sotto certi aspetti, comunque il gioco d'azione o il gioco arcade è comunque quello preferito dal videogiocatore, che anzi oggi fatica anche a concepire videogiochi, alcune forme, alcune derivazioni dei videogiochi che oggi si stanno trasformando in altre tipologie anche di interazione, quindi insomma, beh, poi questi tutti i discorsi che facciamo anche nelle altre trasmissioni come Videoludica o L'Occhio del Beholder di Giuseppe, appunto, dove poi si parla insomma di giochi nello specifico. Qui stiamo parlando dei primordi e però comunque notiamo come questo filo conduttore, no, del gioco arcade da allora, per motivi anche tecnici, di semplificazione a oggi, per una semplificazione proprio delle meccaniche, o proprio perché comunque è più divertente e immediato capire un gioco in una certa maniera, c'è ancora questo legame forte, insomma il videogioco è ancora quello per molti, insomma, quindi per molti E comunque la fase poi della storia del videogioco riprende quello che è stata la ricerca e la ripropone nel mercato, se vogliamo, cioè c'è un'evoluzione similare sul mercato di quella che abbiamo visto nella preistoria del videogioco, in quella che è stata la ricerca. Bene, allora a questo punto io facciamo una pausa noi, ci sono due belle rubricozze molto veloci e ci risentiamo alla fine, insomma, con Carlo e Giuseppe per la conclusione e i saluti anche finali. A fra poco. E quindi mettiamo in pausa un attimo Carlo Sant'Agostino con Giuseppe Saso e apriamo la prima delle rubriche che inseriremo poi all'interno di questo nuovo percorso di archeologia videoludica 2.0, ma in questo frangente, in questo episodio lo facciamo solo a fini prettamente introduttivi. E, per esempio, con il nostro amico Alex Raccuglia noi parleremo tante volte anche di aspetti tecnici, magari descrizioni più tecniche, più pratiche su questioni, insomma, legate all'episodio, perché insomma Alex l'ha dimostrato anche nel vecchissimo corso di archeologia informatica che quando c'era bisogno di spiegare cose tipo, che ne so, la grafica vettoriale usciva fuori lui e ce la spiegava, poi nessuno capiva niente perché siamo tutti imbecilli, ma questo non fa niente. Ciao Alex. Ciao, ciao a tutti i teleascoltatori e ben ritrovati in questo capolavoro di episodio della trasmissione Ammiraglia. Esatto, noi poi in realtà, ecco, come diciamo, questa rubrica, a parte il kit in Google che poi lanceremo dopo, è insomma anche per darci tutti un po' il bentornati, no? Per fare questa sorta di festicciola di ritorno che ci fa veramente tanto piacere, insomma, poi diciamo un po' siamo emozionati, un po' siamo contenti, no? Di aver rimesso in gioco questa barca. Assolutamente sì, cavoli, io credo che fossero anni che aspettavo questo momento. Come dicevo con Carlo all'inizio della puntata, ce l'hanno chiesto in tanti, noi poi l'abbiamo promesso, però in realtà abbiamo aspettato che maturasse veramente entro noi la consapevolezza che forse potevamo farlo, insomma, questa trasmissione, e vabbè, non poteva mancare Alex al debutto di archeologia videoludica, anche perché Alex è stato forse uno dei più forti sostenitori, una volta da dietro le quinte, poi anche in maniera estremamente attiva, insomma, perché poi hai partecipato, hai fatto diverse cose con archeologia videoludica, no? Insomma, ti ricordi, abbiamo provato pure a fare delle live assurde, mezze video, mezze no, insomma, abbiamo sperimentato tanto con questo podcast. Sì, è stato un bel terreno di gioco ed per me è assolutamente un onore essere qui in questo momento, un onore e una gioia. Bene, allora, dato che il grande ritorno di Alex l'abbiamo introdotto, introduciamo un altro grande ritorno per archeologia videoludica, perché come ho detto a inizio puntata quando ho presentato un po' a tutti quelli che sono i membri di questo nuovo team, che poi in realtà è un connubio tra vecchio team e nuovo team, non poteva mancare colui che ci allietava le orecchie con le sue sperimentazioni, con i suoi remix, insomma le sue riproposizioni di grandi vecchi brani del mondo dei videogiochi rielaborate appunto a sua cura, che è, ovviamente stiamo parlando di Andrea Milana, che Alex ci regala un brano, ci ascoltiamo subito questo bel branone. Non solo ci regala un brano, ma uno dei miei brani preferiti di sempre della storia della musica dei videogiochi, ed è un remix del capolavoro di Chris Husbeck di Turrican 2. E quindi una grande partenza con il botto per quanto riguarda i remix di Andrea Milana, con questo Turrican 2 che ci spara subito, insomma, col pezzone grosso. E dato che si tratta di musica, si tratta di pezzoni, e dato che c'è pure Alex Raccuglia, allora possiamo anche un po' parlare, no? Un secondo di questo brano, perché Alex, ricordiamo che fa la sua trasmissione musicale, noi cogliamo sempre l'occasione per rimbalzarci un po' di pubblicità, ossia MDB Summer Radio, che chiaramente troverete o i martedì sera live o i mercoledì sera live, a seconda, insomma, delle situazioni, sempre su www.runtimeradio.it. ma lo potrete, no, è molto semplice, a seconda di quando non gioca la Juve. Esatto, quando non c'è la Champions è il martedì, però di solito. Eh sì, di solito facciamo martedì. Quindi lo trovate, insomma, lo ascoltate su www.runtimeradio.it, oppure andando su Spreaker cercando MDB Summer Radio, Summer scritto con M-M-A-H, che insomma è sempre per rendere la cosa più semplice per tutti, e vi abbonate al feed, scaricate oppure lo cercate su iTunes, fate come assolutamente vi pare. Quindi dicevamo, Alex, sul brano. Allora, io scusa, adoro questo brano, anche perché Turrican, sia l'uno che il due, sono stati dei momenti topici nel mondo dei videogiochi, nel mondo dei videogiochi Amiga, perché erano dei giochi che erano tecnicamente stratosferici, ma erano belli, proprio belli, divertenti da giocare, da vedere e da ascoltare. La colonna sonora di Turrican e di Turrican 2 sono veramente dei pezzi che ancora oggi li ascolto e li canticchio. E tra l'altro sono stati, e questo lo vedremo in una puntata speciale di MDB Summer Radio dedicata alla musica dei videogiochi dell'Amiga, sono stati anche plagiati da gruppi rock, per cui ripeto, tanta bella roba. E devo dire che quando ho saputo del remix di Milana, finalmente in un gioco che io conoscevo molto bene, mi si è proprio illuminato il cuore. E beh sì, in effetti, poi speriamo, insomma, di sparare altre top class, insomma, come questo brano, durante il cammino che farà questa nuova archeologia videoludica, che è iniziata, insomma, con le buone intenzioni, e chiaramente, insomma, piano piano poi miglioreremo. E come abbiamo detto con Carlo Sant'Agostino, anche nell'ambito dei remix, se volete fare dei suggerimenti, voi sapete che Andrea Milana non gli piace essere lui gli piace ricevere suggerimenti, quindi se volete dei brani che non volete proprio ascoltare, suggeriteli, sicuramente lui non li farà, e stiamo tutti in pace con la coscienza. Ma Alex, noi qui oggi, a 6 anni di distanza, perché sono già 6 anni, sono passati veramente 5 anni di edizione più un anno che siamo fermi, o 2 anni, non so, comunque l'anno sabbatico, sì. Forse facciamo sì, 6 anni di distanza, siamo qui per un motivo, perché noi abbiamo un conto in sospeso con la storia, o la storia ha un conto in sospeso con noi, perché il giorno in cui noi siamo partiti con questo programma ci siamo suicidati da soli, poi, no? Perché poi è giù bestemmia che abbiamo ricevuto col passare degli anni, perché il buon professor Jones, Giuseppe Scaletta, parlando ovviamente di Tennis for Two, che di cui poi abbiamo parlato anche in questo episodio con Carlo Sant'Agostino, si è, diciamo, avventurato nella descrizione di che cos'è un oscilloscopio, e da lì noi non ne siamo più usciti. Noi siamo rimasti, rimarremo ricordati per quelli dell'oscilloscopio. Su forum abbiamo letto persone che ci bestemmiavano per questo motivo qui, insomma, e quindi allora è per questo motivo che mi hanno tagliato le gomme della macchina. Esatto, perché ma tu sei amico del viaggio, le gomme della macchina. Quindi a questo punto, anche se non c'è motivo, anche se in fondo non ce ne frega manco niente, noi abbiamo questa revenge che dobbiamo fare assolutamente nei confronti della storia, e quindi chi meglio di te può spiegarci che cazzo è sto oscilloscopio? Allora, secondo me, per spiegare l'oscilloscopio in 3 minuti è essenziale dividere in 2 parti. Uno, cosa succede quando guardi un oscilloscopio, e poi dopo circa un pochettino con la funzione tecnica. Il grande vantaggio dell'oscilloscopio credo che sia stato uno dei primi strumenti della storia dell'umanità che ha saputo trovare la giusta corrispondenza di paradigma tra informazioni temporali e informazioni spaziali. Adesso, se noi guardiamo una timeline di un programma di montaggio, anche semplicemente la barra di scorrimento di YouTube, noi sappiamo che il cursore di YouTube scorre, va in avanti man mano che passa il tempo, cioè fondamentalmente mette nello spazio un cazzillo, cioè un oggetto, In modo proporzionale al tempo che passa, e questa è una cosa che facciamo tutti i giorni, è diventato un paradigma nostro, e l'oscilloscopio credo che sia stata una delle prime cose che l'ha fatto. Ora, prima di pensare all'oscilloscopio, pensiamo a un elettrocardiogramma. Immagino che l'abbiamo fatto tutti, un elettrocardiogramma o anche un encefalogramma, insomma uno di quei gramma che ti fanno all'ospedale. Un gramma l'abbiamo presente? Fatto sicuro, sì, un gramma l'abbiamo fatto, sì, 21 gramma. Allora, fondamentalmente l'elettrocardiogramma ti misura il battito e praticamente disegna con un pennino l'andamento del battito del tuo cuore nel tempo. Alla fine, quando hai finito di fare l'elettrocardiogramma, il medico lo prende e praticamente ha in mano un foglio di carta che scorre, cioè idealmente noi spostando la testa da sinistra a destra vediamo lo scorrere del tempo, per cui in orizzontale abbiamo lo scorrere del tempo e in verticale abbiamo il valore del nostro battito. Fin qui siamo tutti d'accordo? Abbastanza. È una cosa relativamente semplice, però è molto interessante, perché se uno guardasse, ascoltasse soltanto il battito, cioè praticamente vedrebbe una cosa che va su e giù, ma che non rimane. E invece in questo con l'elettrocardiogramma questa cosa rimane, per cui abbiamo informazioni che si evolvono nel tempo dipanate nello spazio. L'oscilloscopio cosa fa fondamentalmente? L'oscilloscopio è un coso che praticamente dopo aver disegnato un po' torna indietro e ricomincia a disegnare un po' come se noi avessimo un elettrocardiogramma che dopo aver fatto 10 centimetri ricomincia e poi ricomincia e poi ricomincia. Questa cosa è comoda perché fondamentalmente non si spreca carta e soprattutto consente di visualizzare delle cose anche con degli intervalli molto particolari. La cosa interessante dell'oscilloscopio è che si può scegliere ogni quanto far tornare indietro la testina. In questo modo, se noi abbiamo un segnale che si ripete 100 volte al secondo, cioè che praticamente la singola unità di tempo in cui questo segnale si ripete è di un centesimo di secondo, se noi diciamo all'oscilloscopio fa che la nostra finestra temporale sia di un centesimo di secondo, l'oscilloscopio tornerà indietro al punto tale per cui, modificando la manopolina in modo da aumentare o diminuire l'ampiezza di questo momento di ritorno indietro, arriveremo a un punto di sincronia in cui possiamo vedere effettivamente a video, in una sorta di video, il singolo intervallo del segnale. In questo modo abbiamo sincronia e possiamo capire effettivamente come è strutturato questo oscilloscopio e vedere, scusa, come è strutturato il segnale e capire un pochettino come è fatto. Se è un segnale sinusoidale vedremo un'onda che va su e giù, poi torna su, poi torna su, cioè fondamentalmente sempre così. Se invece è un segnale, che ne so, a dente di sega o quadrato, a un certo punto vedremo proprio questa cosa che rimane statica, ma perché fondamentalmente abbiamo sincronizzato il video con il segnale stesso. E in questo caso però è molto importante capire che stiamo visualizzando informazioni monodimensionali, cioè nel senso il valore che sale o che scende a seconda dell'intensità della tensione, e in un certo intervallo di tempo continuo che continua a ripetersi. Come funziona l'oscilloscopio essenzialmente? L'oscilloscopio è, adesso facciamo un'altra analogia, avete mai fatto la pipì sulla neve? Tu immagino che abbia pisciato una volta, nonostante a Roma non nevichi mai, cioè quando l'oscilloscopio è come il pisello e la piscia. Praticamente molto gentile, è bellissimo. Cioè, l'oscilloscopio a tubo catodico funziona così: praticamente c'è un cazzillo che esce dei fotoni, li spara, e questi fotoni vanno a colpire un materiale, uno schermo fatto di fosfori che si illuminano quando sono eccitati da questi fotoni, un po' come se noi pisciamo e il posto dove pisciamo nella neve si illumina. E ovviamente se teniamo il pisello fermo, tutto rimane fermo, avremo soltanto un punto che si sposta. Se però prendiamo il pisello e lo spostiamo a destra e a sinistra, vedremo che questo punto luminoso si sposta a destra e a sinistra. Okay. L'oscilloscopio funziona così, il tubo catodico funziona in questo modo, cioè questo cannone che spara elettroni, e praticamente attraverso due magneti questo cannone viene deviato in su o in giù in modo da disegnare un punto sullo schermo, a sopra, sotto, a destra, a sinistra. Questo la velocità di disegno è talmente elevata, anche la velocità di spostamento è talmente elevata, che si possono disegnare delle funzioni continue, per cui invece di vedere un punto che si sposta vedremo essenzialmente una linea, perché questi fosfori vengono eccitati, rimangono eccitati un pochettino, e la persistenza sulla retina è tale che avremo questa forma d'onda. Il tubo catodico è lo stesso che viene utilizzato nei televisori, per cui essenzialmente più o meno a grandi linee. Essenzialmente, quando il tubo catodico arriva da parte da sinistra, arriva fino a destra, a questo punto torna indietro molto velocemente e ricomincia. In questo modo abbiamo l'andamento. Quindi il Vertex era un oscilloscopio alla fine. Sì, più che altro era un tubo catodico che era una sorta di oscilloscopio, che però non andava in oscillazione, non andava soltanto a destra e tornava indietro. Vabbè, ma attraverso faceva disegni complessi, chiaramente. Sì, perché il tubo catodico, cioè il pisello, veniva spostato su e giù, a destra e a sinistra, in modo da disegnare le varie forme. Va bene, e questo aspetta, l'ultima cosa che volevo dire è che, ovviamente, dato che c'è un numero limitato di fotoni, anche un numero limitato di movimenti che si possono fare nell'intervallo di tempo, più c'è roba da disegnare e più il puntino luminoso fa fatica, essenzialmente, per cui oltre a un certo limite le linee sullo schermo si vedevano che venivano disegnate invece di essere essenzialmente delle cose continue. È un po' come se noi continuiamo a prendere il nostro pisello, andiamo su giù, a un certo punto la pipì si spacca in qualche punto. Non è proprio così, però volevo dare un minimo di parvenza di non serietà, perché altrimenti il signor oscilloscopio in questione ci avrebbe schiacciato di tristezza. Esatto. Invece in questo caso capisce che noi la buttiamo in vacca, per cui va bene. Esatto, perché quel minimo in archeologia videoludica ci deve essere, se no. Sì, ma poi c'è Sant'Agostino che è il guru vate Master of Puppets, per cui noi siamo qua soltanto ad ascoltare e a dire cazzate. No, ma poi tu non lo sai, lui è preoccupatissimo, sta dietro la parete a sentire se diciamo cazzate, quindi è terribile, è fomentatissimo per questa edizione di archeologia videoludica. E vabbè, da una parte anche grazie al cielo, così almeno eviteremo, insomma, che ci siano oscilloscopi del futuro di archeologia videoludica 2.0. E quindi questa revenge noi ce la siamo levata. Adesso io dico soltanto a una persona in particolare, non ci ascolterai mai, però vedi, abbiamo risolto il problema. Ci abbiamo messo 6 anni, ma abbiamo risolto il problema. Quindi Alex, benvenuto e bentornato anche a te in archeologia videoludica. Grazie davvero, è veramente bello essere qui e non vedo l'ora di sentire tutte le puntate e magari ogni tanto di fare un capolino, dirvi ciao, dirvi qualche cavolata tipo il pisello. Sì esatto, questo poi è bellissimo. E adesso diamo il benvenuto a un altro grande, quasi indispensabile, Marco Gualdi, il distruggitore, con Kittis in Google. A dopo. Google. E niente, allora, dato che abbiamo detto che insomma ci sono grandi ritorni, ci sono situazioni, qua io me li trovo alla fine sempre davanti a sto, però è cambiato perché è grigio metallizzato, bello grosso, c'è pure il coso per l'acqua di fuori, bel frigo da Samsung forse, boh, non so, non si legge bene. Comunque apro, vediamo un po', perché apro, ammazza, ma è profondo, che è tipo sempre il TARDIS, praticamente il TARDIS dei frigoriferi. C'è nessuno? No, io non entro stavolta, quindi c'è nessuno? Oh, che Babbo Natale sta arrivando, che scusa, sto togliendo, sai, le maglie, le cotte di maglie, sto togliendo perché abbiamo fatto una cosa medievale. Ah, ho capito. Una riunione medievale, e adesso ci siamo ritirati ognuno nel proprio magione, la mia magione. Ma scusa, medievale con chi? Cioè, il mio gruppo di giocatori di medievali. Di medievali. Ah, ok. Prendiamo a spadate. Ok, beh, dentro al frigo. Dentro al frigo. Bello, beh, è spazioso, ti piace questo? No, bello. No, poi almeno se uno si fa male c'è il ghiaccio già subito a portata di mano. Sei coperto bene. Io mi sono messo la magliettina termica sotto perché comunque. Ma io perché, come al solito, non ero in studio, quindi stavo con gli altri. Vale stare in studio perché lo studio fa male. Bisogna fare questi giochi medievali. No, ma io non facciamo il gioco medievale. Siamo sulla di ferro. Siamo tornati a fare archeologia videoludica, te lo ricordi? Come 7 anni fa. Io non sono preparato per queste cose. Io sono preparato per archeologia e basta. No, c'è videoludica. Però ancora, ma io mi ero preparato le mummie. Ma tu te lo ricordi archeologia videoludica? Perché sono passati tanti anni. Io mi ricordo. Facevamo con mi ricordo qualcosa che si muove nel buio. Professor Jones, tu ricordi una cosa professor luminosa, Jones? Mi ricordo l'oscilloscopio. Scope. Bravo, ne abbiamo appena parlato. Shield Scope, che non ci ho mai capito un cazzo. Manco noi, perché siamo stati bestemmiati per anni con questa cosa dello scioscopio. Però dico, professor Jones, te lo ricordi? Jones, Giuseppe Scaletta. Jones, le trappole mortali. Che c'è più, però, professor Jones. Perché c'è un motivo per cui. Perché lui è partito i suoi viaggi e poi alla fine non è più. E Roberto Bertoni ho organizzato io i suoi viaggi. Bravo, è chiaro, sì, sì, esatto. Non tornerà più dai quei viaggi. Bertoni, te lo ricordi, no? Quello che Bertoni quando parlava in inglese ammazzava. Sì, sì, ma anche quando parlava italiano ammazzava la gente. Esatto. Lui è tanto bravo, tanto non c'è buono. Più manco lui, però. Anche lui ho fatto fare un viaggio. Ok, pure lui. Non dottor Brody, pure lui. Dottor Brody, bravo, hai detto bene. Però ci sono tanta altra gente che. Che c'è, che ne so, c'è, c'è Santilio, per esempio, nuovo. Santilio, ah sì, che bravo ragazzo. Lo conosci, no? C'è un canale. C'è un canale, sì. Che io non ho mai visto, ovviamente. Però so che c'è un canale. No, tu sì, hai mai visto il suo canale? Qualcosa ho visto. Qualcosa hai visto, sì. Anche lui penso che organizzerà un viaggio. Pensa che proprio recentemente siamo stati a Firenze e Danilo Giardino gli ha detto in faccia, dice, io mi piace il tuo canale perché così la sera mi addormento. Conciglia, c'ha la sua esatto, quindi c'ha insomma la sua funzione. Quindi l'hai anche conosciuto fisicamente? L'ho conosciuto fisicamente. Anche tu, sì, l'hai conosciuto quando siamo andati al Vintage Beat, non lo so. Sempre roba di archeologia videoludica, poi. Non riesco a capire queste cose, queste rimozioni di archeologia videoludica. Videoludica, vabbè, poi ci sei tu, sei tornato. Ma tu sei contento di essere tornato? Non accetto questo rientro, forse. Ma non volevi. Il sepolto dovrebbe essere. E restare seduto, è vero. Ma tu quindi non volevi tornare? Che sai, io chiudo un po' preparato, chiudo il frigo e lascio stare. Un po' preparato, no? Vabbè, guarda. Vabbè, se vuoi, io c'ho. Quando era il tema della giornata? Il tema era la preistoria del videogioco. No, aspetta, quindi... che digito qualcosa sul mio bad computer. Aspetta, ecco, secondo che digito la password. Punto esclamativo. Chiocciola. Chiocciola, giusto. Qual era l'ultima? Uno, giusto. Ecco, vediamo allora. Giochi. Che giochi? Scusa? Elettromeccanici. Guardiamo su Kitsen in Google, il nostro nuovo simpatico sistema operativo Kitsen in Google. Kitsen in Google 2.0. 2.0, chiaramente. 2.0. E vediamo. Ah, guarda, c'è questo. È uscito un articoletto sul museo degli arcade. Lo sapevi che. Guarda che strana cosa. Cioè, pare che i sovietici. Negli anni 70-80 abbiamo organizzato una mostra sui giochi ovviamente vecchi, diciamo, che venivano dai capitalisti di merda, giustamente. Cioè loro negli anni 80 avevano organizzato, oppure erano i giochi degli anni 70-80? No, negli anni 70-80 sì, erano i giochi veramente degli anni 70-80, però in quegli anni loro fecero una mostra e piacque così tanto che gli organizzatori della mostra si comprarono tutti i cabinati e li convertirono. Per esempio c'era Sea Battle, che mi sembra che era della Freeway, e diventò tipo Morsco e Boy. Cioè da ridere sul comunismo, oppure morte al capitalismo. Morte al capitalismo, esatto. Sì, c'era questa bellissima cosa con i cabinati. Ah, beh, guarda, bello, beh, questo è molto sovietico, però sta cosa. Sì, c'è scritto Mskevenev. Purtroppo non vedrete mai quello che stiamo vedendo noi, perché non abbiamo più note dell'episodio. Le vedranno le nostre fantastiche note. No, non le mettiamo più, non abbiamo più neanche il sito. Quindi c'è quest'altro che Gumon, che cirillico si pronuncia più o meno così. Esatto. Forse lo dovevamo chiedere a Michela che lo sa, russo, forse chissà. Sì, comunque è una bella cupola di plexiglass. Esatto. Esisteva plexiglass? Penso di sì, forse plexiglass. Plastica trasparente. Plexiplastica. E questi chi sono? Sono dei tre fuorilegge che hanno rubato. Comunque, ecco, c'è la Midway Sea Rider. Era Sea Rider, che appunto diventò Moscow Boy. Era della Midway, scusate. Non esatto. Moscow Boy degli anni 70. Che sarebbe? Sea Rider. No, che sarebbe Moscow Boy, cioè che si ma lasciamolo ai comunisti, esatto. Morte al capitalismo, esatto, anche quello, tutto qualsiasi cosa significava morte. E poi c'era anche Sega Basketball, che era quel cupolone di plexiglass. Questo me lo ricordo pure io, che tradotto in russo era morte al capitalismo basket, c'era bellissimo. Morte al capitalismo ball. Esatto. È tutto molto bello questa cosa, perché poi ci sono tutte le istruzioni in cirillico, sì, chiarissimo. Guarda questo, questo è brutto, forte? Che cos'è? Era un gioco per aumentare la familiarità dei giocatori con i segnali stradali. Ah, tutto molto chiaro, no? Ah, c'era, certo, il segnale, tu ovviamente se sbagliavi venivi fucilato o mandato al gulag. Esatto, esatto. Però c'era una funzione didattica. Esatto, quindi, perché è così che hanno imparato a guidare i russi. Esatto. Sono famosi in tutto il mondo per, esatto, la loro capacità di guida. E poi che cosa c'è scritto sulla patente? Russia? C'è scritto morte al capitalismo, ovviamente. E poi c'era anche questo tiro al bersaglio, tiro al bersaglio al capitalista, ovviamente. Bello. Esatto. Che era per migliorare i sistemi di mira, appuntamento automatici del russo, cioè, medio. Senso estetico proprio, niente. Senso estetici del capitalismo contro quelli del russo vincono, ovviamente. Vinco. Però il russo, il compagno, c'ha di suo la struttura che è solida. Esatto, no? Esatto. La qualità. La qualità socialista. E poi c'è il gioco che era il famoso Safari. Te lo ricordi, Safari? Ma forse sì, sai. Però cui, sì, me lo ricordo, sì. Anche questo si chiamava morte al capitalismo. Tutti i giochi diventavano. Sì, tutti morte al capitalismo. È molto bello. Si chiamavano con nomi diversi, che però tutti significavano comunque in qualche modo morte al capitalismo. Esatto. Perché bisogna giocare sulla morte. E questo che cos'è? Questo qui penso, assomiglia molto a quei treppiedi che usano i vecchi. Esatto. Per il deambulatore. Esatto. Praticamente è un antenato, viene definito un antenato di Dance Dance Revolution. Addirittura. Che si chiamava morte al capitalismo. Revolution. E viva la rivoluzione. Viva la rivoluzione. È giusto, giusto. La rivoluzione. È fantastico, fantastico. È stupendo. Quindi io direi. Vabbè, io forse ci troviamo, magari quando metteremo la puntata su Spreaker. Forse il link cerco insomma di mettervelo, perché va assolutamente visto. Poi c'è una foto di alcune persone così a casaccio, tipo anche gente che, questo e vabbè, poi c'è anche quest'altro filmato, lo possiamo anche mandare, che è bellissimo. Mandalo, tanto non lo sentiremo mai. Io cercando mai sempre nel bad computer, è venuto fuori un gioco della Seaburg, non so se avete parlato. Certo, è stato il primo gioco di cui abbiamo parlato, storica, insomma, passato poi la storia per la per la numerosità, per la, diciamo, la quantità esatto di giochi completamente diversi l'uno dall'altro, sì, che non dirò fuori, cioè, no, un'originalità incredibile, perché i giochi elettromeccanici alla fine erano tutti uguali. Quindi, questo no, mi stai assolutamente no. No. Ma c'è un gioco che si chiama Morte al capitalismo? Qui no, finito, no, è finita. Sì, perché c'è Morte al comunismo. Al comunismo, hai ragione. Allora, cominciamo con il gioco che ci viene illustrato da un simpatico vecchio. Da un vecchio? Cioè, un gioco del 39, se non sbaglio. Sì, beh, probabile. Vecchio, che nel 39 penso sia nato. Esatto. Ci fa vedere, cerca di inserire le monete, ma non ce la fa perché è troppo vecchio. È troppo vecchio, infatti. Però ho preso in mano il fucile, lui andava a caccia di comunisti. Infatti questo è Beer Hunt, ma Beer sta per comunista. Esatto, che significa caccia morte al comunismo. Caccia al comunismo. E c'è il simpatico orso che viene impallinato. Sì, sì, sì. C'è tre posizioni, impallinato a destra, impallinato a sinistra, impallinato in piedi. Esatto, no, in piedi quando viene colpito. Ma c'è anche nel petto, c'è questo buco. Ah, giusto, che giusto. Cioè, due cose. Bello, bello, bel gioco. Però c'è zecca il vecchietto. Ma no, è in automatico. Secondo me sta sparando a casaccio. Esatto. In realtà c'è questa cosa che quando, come Daredevil, quando prende in mano il fucile, lui percepisce il nemico. E il cecchino alla Daredevil, esatto. Il comunista, infatti, che lo sente nell'aria. Lo sente. Daredevil, che sappiamo bello tutti essere vestito di rosso ed è morto al comunismo. Esatto, anche Daredevil, sì, è un po' ambiguo, in America, sai, non è che. Poi abbiamo anche alcune foto di e questo altro, vabbè, quello classico che andiamo a vedere, che praticamente è un'altra versione che si chiama Shoot the Mother-in-Law, cioè ammazza la suocera, colpisci, spara alla suocera. Cioè sempre un simpatico uomo nato nel 45, un po' più giovane si vede, perché è proprio molto più attivo, dove su questo cabinato completamente diverso da Shoot the Bear, cioè ammazza il capitalista, il comunista. E qui invece ammazza la madre del comunista, esatto, del comunismo ancora. Con la suocera comunista, che è peggio ancora. Ammazza la madre del comunismo. Che dove proprio si vede, vedete un tizio che dovrebbe essere in realtà un uomo. Che, esatto, poi qui cambia. Che non si sa perché, però è suocera. La suocera in realtà è alle spalle, o forse è una suocera che sembra un uomo. Forse Proprio, anche per questo motivo forse bisogna sparargli. Anche questo è un gioco del 39, dalla giocabilità, dal gameplay innovativo, innovativo. Questa figura che gira intorno e tu gli spari e cambia direzione quando senza un reale motivo, solo perché è comunista. Esatto, certo. Però questa discriminazione politica è un gameplay assolutamente bellissimo. Strano che non abbiano fatto una versione comunista Shoot the, ma l'avranno fatta, ma noi non l'abbiamo vista. Shoot the Capitalist, esatto. Morte al capitalismo, versione sparatoria. Sparatutto. Esatto, okay. Questo si può definire uno sparatutto in prima persona? Beh sì, sei tu il prima persona. Ma andiamo proprio in periodo guerra, sempre del 39, un altro gioco dal gameplay nuovo, infatti nell'anno c'erano le grandi testate internazionali, durante l'E3 fu presentato, se non sbaglio, nel 39, Shoot the Chutes, cioè spara ai paracaduti, dove il protagonista in questo caso non è più l'anatra, non è più la suocera comunista, ma è il simpatico paracadutista, quindi è l'invasore comunista pure l'invasore. Ah, vedi, sta questo sei innovativo. Bello, perché voi adesso, ma poi perché salgono quelli col paracadute? No, perché quello che salgono è quello che torna indietro, perché in realtà adesso questo è sarebbe coperto in teoria, fanno vedere come funziona tutte quante le cose, ma che viene coperto, okay. Allora, il gameplay è innovativo, voi avete scoperto con i nuovi giochi l'orizzontalità, no, cioè la verticalità, esatto, questo è diagonale, questo è un gioco in diagonale, diagonalità. Veramente c'è il paracadutista scende di là, ma un gameplay completamente innovativo. Ricordate che le schede grafiche furono aggiornate. Ma quanto è brutto sto gioco, scusa, ma cioè alla fine non è manco difficile, cioè scende a sempre alla stessa velocità. Tu credi? Cioè, dopo aver passato intere generazioni tipo Assassin's Creed a sparare in verticale, metti in diagonale, in diagonale è un casino, certo. Ma infatti furono cambiate si ricordano le critiche, perché le schede grafiche non riuscivano a supportare questa diagonalità e furono costrette a scalare un pochino il gioco. Per raccontarvelo, praticamente questo gioco elettromeccanico, c'è cioè questa figura di questo paracadutista che scende lentamente però in diagonale, hai tutto il tempo per ucciderlo, chiaramente anche più volte poi. Ma sì, ma cioè, un po' come Assassin's Creed, bisogna vedere la serie, qui c'è la cosa, si parte dall'anatra e si finisce il paracadutista. Hai ragione. Tutta un'altra situazione. E quella era comunque l'invasore comunista, chiaramente. L'invasore assolutamente comunista e nazista, perché l'ultimo nel 39 c'era il problema del nazi comunismo. Certo, tutti insieme. Problema del nazi comunismo. E poi c'è un altro gioco. E questo però è figo. Questo è un po' più recente, del 69. Questo è figo, eh. Questo è figo, ragazzi, per davvero, perché perché è della Sega. Ricordiamo la forma. No, ma cioè questo è figo proprio il cabinato, cioè perché questo qui raccontacelo. Allora, tu immaginatevi di essere nel 69 in una console di comando, di avere in mano un missile. Come dovrebbe essere una console di comando? Una sorta di postazione antiaerea, diciamo così. Ci deve essere un radar assolutamente al centro fisso con dei manometri, esatto, dei contachilometri, qui a caso tre pulsanti rossi accesi a cazzo che indicano il pericolo, il comunismo, esatto. Quello verde sotto, due, che indica la serenità, che è spento perché ovviamente, esatto, il pericolo comunista, esatto, c'è il pericolo, non c'è serenità, esatto, bravo assolutamente, capire, esatto. Poi a fianco ci sono dei numeri che partono da 1000 e finiscono a 2800, probabilmente sono i punteggi quelli, no, è il livello di comunismo, esatto. Bisogna farlo decrescere, chiaro. Infatti il bello di questo gioco è la grafica innovativa e il gameplay, che ma tanto come si chiama il gioco? Missile. Questo è figo però, eh. Bellissimo. Allora, la profondità di campo, questo è un vero gioco 3D, e questo è 3D, perché è 3D. La genialata è questo missile che è meccanico, che si illumina in uno sfondo nero, e arrivano questi aerei comunisti, ovviamente, che devono essere battuti. La genialità è che quando si spegne il razzo, parte il colpo, che è una striscia luminosa sullo sfondo, che a seconda di come è orientato il missile, ovviamente c'è la sua traiettoria. Se si incrocia con l'aereo, ma questo anche visivamente è molto intelligente, grande elaborazione, insomma. Cioè, qui ci fu un problema con le schede audio, mi ricordo, certo. C'era un problema di compatibilità con l'input output, a volte l'esplosione non veniva resa bene con la porta, sì. Device, sì, va bene, problemi di porta, tutte queste poi cose. Questo qua, beh, spegni la luce per far vedere quando parte il missile, è figo l'effetto, però è bellissimo anche l'effetto del radar che ti acceca. Esatto. Che ti aiuta appunto a non prendere inutilmente, anche perché poi c'è sta luce che sta lì ferma. Ma beh, questo effetto 3D, cioè, io ci avrei messo un oscilloscopio per fare il radar comunque. Sì, ma l'oscilloscopio secondo me ci sarebbe stato bene, avrebbe un po', secondo me, rubato delle risorse al sistema. Poi gira il missile, va pure effetto comunque. Ricordiamo che questo gioco gira a mezzo bit, esatto, però sono 60 frame al secondo, quindi. 60 frame al secondo, infatti. Esatto. Dottor Freddy al secondo, che praticamente vengono rese benissimo su questo schermo 4, anzi era 3K, era KKK a quel periodo, mi sembra, c'erano 3, non più di 3. No, perché no, solo con il cappuccio, sì, in testa, esatto. venivano lì, bardati col cappuccio, sì, fuoco, di solito fuoco, si danno fuoco, ma era un fuoco che d'amore, esatto. È bellissimo, questo è un gioco che consiglio di recuperare con i vostri emulatori. Sì. Sicuramente si troveranno. No, però c'è sempre YouTube. C'è sempre YouTube. O YouPorn anche. Non è la stessa cosa. YouPorn è bellissimo. Sicuramente secondo me qualcosa. Mettete missile, sì, sicuramente sì, qualcosa esce fuori. Sicuramente. In 3D, se è possibile. Esatto. Ma anche qui un po' VR. Qui secondo me c'è l'occhialino, sì, VR, sì, ci stava tutto. Vabbè, questa era l'ultima cosa. Tanto questo c'ha il morbo di Parkinson. C'è il morbo di Parkinson. Questo perché? Perché dopo aver giocato questo gioco, infatti, dice: ma perché non andare a uccidere realmente un comunista? E ti viene il morbo di Parkinson nel frattempo. Bene, comunque, se vi viene in mente di cercare questi giochi elettromeccanici, YouTube è pieno di video. Ma noi lo metteremo nelle note, dell'episodio. Le note dell'episodio che non ci saranno mai, ma noi le metteremo. Perché esatto, noi le note le facciamo. Ovviamente. Noi le note da qualche parte le dobbiamo mettere per forza, però poi dopo. Quello che ci facciamo non si sa. Vabbè, io guarda. Scusa, bene, io direi che ce ne possiamo anche andare. Tu sei contento di essere tornato? Comunque? Sì, sono veramente contento. Però, scusa, se intanto mi rimetto la cotta di maglia. La cotta di maglia, perché, perché devi andare a far spadate. A far spadate, okay. Perché io, sarà pure che questa qui è videoludica, ma se voi mi dite archeologia, facciamo archeologia, io vado a cercare mummie. Cioè. E mummie, c'hai ragione pure. Vabbè, allora io adesso ritorno di là per i saluti finali, così chiudiamo la trasmissione. Te saluto, te lascio. Sempre, però vedo insomma che ti sei allargato nel frattempo. Insomma, c'è la luce che rimane accesa. Con i soldi d'archeologia videoludica. Con i milioni di archeologia videoludica abbiamo toccato i quota 1000. Attenzione, adesso i quota 1000 cosa? 1000 like. Ah, la pagina di Facebook. Adesso non so come tornare a zero. Eh sì, no, ma eravamo già superati, solo che poi eravamo decresciuti, perché chiaramente sì, all'annuncio siamo scesi, cioè, torniamo no archeologia, no, basta, forse è la videoludica che ci mancava, eppure si era abbastanza hype. Vabbè, comunque sì, dai, ti lascio qui. Vabbè, io vado a far sparare, perché dice, mi porto i bastoncini su officini. Per usare la spada o per. Non so, che è più medievale, il bastoncino o il suo officino, ma nessuno dei due. Qualcosa mi devo portare, che mica ci stanno. Secondo me dovresti prendere la sogliola, che è pure affilata. Cioè, pesce spada. La sogliola è proprio pam. Pesce spada. Pure il pesce spada. Vabbè, ce l'hai il pesce spada? Vedo se c'è qualche traccia. Vabbè. Ciao, ciao ragazzi. Alla prossima, ciao. E rieccoci qui dunque per la conclusione di questo primo episodio di Archeologia Videoludica 2.0, che come ci eravamo ripromessi voleva fare una sorta di iper introduzione, così come probabilmente sarà anche nelle prossime due puntate, forse, perché poi è tutto ancora in divenire, cercare insomma di creare dei macro blocchi per quello che è la storia fondamentale del videogioco, per poi dopo far evolvere la trasmissione anche, come diceva Carlo in precedenza all'inizio, insomma, anche grazie al vostro supporto, che come ascoltatori, che potete sempre interagire con noi, chiedere magari di approfondire determinati argomenti piuttosto che altri, perché quello che poi dopo alla fine magari non abbiamo fatto nella prima edizione è andare a focalizzare bene magari alcune cose che potevano essere anche meglio approfondite. Carlo, vuoi aggiungere qualcosa? Ma semplicemente, ecco, ribadisco come hai detto tu, che questa è una, diciamo, una visione a 360 gradi di quella che è stata la preistoria, e ritorneremo sicuramente, dettaglieremo, perché ce ne sarebbe da parlare su ognuna delle cose che abbiamo detto, ce ne esatto, sarebbe da fare un'intera puntata, esatto, in dettaglio, quindi ci rimettiamo anche a quelli che sono magari i gusti degli ascoltatori, per darci degli spunti su cui approfondire, e comunque nel caso poi andremo sicuramente ad approfondire in dettaglio tutte queste cose nelle puntate future. Certo, anche perché noi, non avendo padroni, possiamo continuare a raccontare le cose nel dettaglio quanto vogliamo. Questa nuova archeologia videoludica può durare ulteriori altre 5 stagioni, come è successo per la prima edizione. Giuseppe, se non di più. Giuseppe, tu invece volevi concludere. No, ma io diciamo, mi associo a Santa. È stato, diciamo, innanzitutto interessante iniziare a introdurre l'argomento oggi, vedere effettivamente come effettivamente tecnologia che non era stata pensata inizialmente per uno scopo ludico, no? Si facevano anche i calcoli per balistici, per i missili, ricordiamo. per scopi militari, dopotutto no, non è un caso, diciamo, ricordo anche se giochi Wargame, no, era il computer della NASA che usava comunque per tutt'altro che farci, insomma, il giochino contro il computer. Comunque, e poi vorrei appunto associarmi anch'io facendo appunto questo appello agli ascoltatori, che se magari c'è qualche cosa che gli stuzzica la loro curiosità e che vogliono che approfondiamo di più, suggeritecelo, ditecelo, noi siamo aperti a qualsiasi spunto, purché ovviamente inerente ai temi trattati dalla nostra trasmissione. Certo, e poi siamo noi che metteremo, sì, i confini e i margini. Io, certo, voglio in questa fase finale ringraziare e salutare proprio con affetto due persone che non fanno più parte del team di Archeologia Videoludica e che hanno fatto parte della nostra storia come programma, e sono Giuseppe Scaletta e Roberto Bertoni, che non per qualche motivo particolare, ma comunque per reciproche scelte anche individuali, comunque non fanno parte di questo nuovo team, che però, insomma, meritano di essere citati comunque anche come autori del programma stesso, perché comunque tutto è nato anche grazie a loro. Ringrazio invece il resto del team che poi sentirete che avete sentito oggi o che sentirete poi anche nelle prossime puntate, quindi Marco Gualdi, Cristiano Caliendo, Giuseppe Saso che è qui con noi, Gianluca Santilio e Alex Raccuglia, e giustamente anche Carlo Sant'Agostino, che anche lui è in questo momento con noi. Ringraziamo Carlo Burigana soprattutto per gli assets originali del nostro nuovo programma. Vi ricordo, Archeologia Videoludica la trovate su Facebook cercando la pagina e facendo mi piace, trovate la nostra trasmissione, la potete sentire su runtime.it, anzi runtimeradio.it, scusate, dove verrà mandata in streaming di tanto in tanto, anche in replica fino a che non esce il nuovo episodio, e su iTunes o sempre cercando su Spreaker.com la trasmissione, abbonandovi al feed RSS, quindi utilizzandola come podcast, in automatico uscirà, vi verrà scaricato sui vostri dispositivi ogni volta che verrà pubblicato un nuovo episodio. Detto questo, un attimo, vuoi? Vi invito, ovviamente in questa puntata, visto il reboot eccetera, non c'è la rubrica della posta, però invitiamo ovviamente gli ascoltatori sempre a scrivere. Certo. Penso che più o meno sia la stessa la casella di posta, cioè l'indirizzo è sempre quello anche vecchio di sì, sempre archeologiavideoludica@gmail.com, ma potete scrivere anche a runtimeradio@gmail.com, oppure potete scrivere direttamente anche nella pagina Facebook. Come detto, dimenticavo di dire che presto uscirà anche una puntata di Archeologia Informatica sull'MSX, lo diciamo, Carlo, a questo punto? Sì, assolutamente. Ci facciamo un po' di pubblicità, quindi sullo standard MSX, che anche questo ce l'avevano chiesto in diversi, quindi insomma è giusto tributare il giusto spazio. Per questo primo episodio, emozionati e contenti di essere tornati, è tutto da me, Simone, Carlo e Giuseppe, è tutto, arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti. Wow, che puntata, ragazzi. Che puntata. Ce l'abbiamo fatta a portarla a termine. E con questo abbiamo pure chiuso il cerchio. Ma chi è? Oh, Fatmater, signore, è un onore. Pizzi, l'oscilloscopio, Pizzi. Avevamo promesso di essere precisi.